Forse fin da piccoli abbiamo appreso i meravigliosi avvenimenti della Bibbia, quali per esempio la creazione, il passaggio del Mar Rosso, Davide e Golia, eccetera. Avviene però che in seguito non ricordiamo gli avvenimenti sopracitati, non riusciamo più a collocarli secondo l'ordine anche cronologico che la scrittura ha loro assegnato. In tal modo non riusciamo a ritenere intatta la lezione spirituale che la Sacra Scrittura vuole offrire anche attraverso i suoi racconti. Questo lavoro, lungi dal pretendere di costituire una soluzione perfetta al problema sollevato, ha lo scopo di fornire una presentazione dell'Antico Testamento idonea ad essere mentalmente schematizzata. Uno dei motivi fondamentali per cui non siamo in grado di trasmettere la parola di Dio è data dalla scarsa conoscenza della storia ebraica, per cui rivolgiamo ad ogni cristiano una sentita raccomandazione. Studia la parola di Dio. Se sei abbattuto ti darà conforto. Se sei esaltato ti darà moderazione, se sei freddo ti farà ardente, se sei agitato ti renderà sereno, se sei affamato ti sazierà, se sei assetato ti disseterà, se sei arido ti annaffierà, se sei debole ti renderà forte, se sei nel dubbio ti darà certezza, se sei nell'ignoranza ti darà sapienza, se sei nel vero ti confermerà, se hai paura ti darà coraggio. Se sei audace, ti farà prudente. Se sei nell'angoscia, ti darà pace. Se sei nella pace, te la crescerà. Se sei innocente, ti proteggerà. Se sei peccatore, ti perdonerà. Se sei vile, ti farà ardito. Se non l'ascolti, la rimpiangerai. Se la disprezzi, sarà la tua condanna. E la parola necessaria nel diluvio delle parole inutili che ti tocca sentire. Felicità per lo scoraggiato. Appagamento per l'angustiato. Riposo per l'oppresso. Guarigione per l'ammalato. Amore per chi è solo. Accorgimento per i semplici. Riflessione per il giovane. Soprannaturale nella sua origine. Eterna nella durata. Inesprimibile nel suo valore. Infinita nel suo scopo. Divina per il suo autore. Umana perché erano uomini coloro che l'hanno scritta. Rigeneratrice in potenza. Infallibile in autorità. Universale in Solo così riuscirai a trasmettere non solo ciò che hai imparato, ma l'amore per le cose di Dio. Quando per te verrà il momento di andare alla casa del Padre, gli altri si ricorderanno del tuo amore, perché questo non verrà mai meno. 1 Co 13:8. PERCHEL ANTICO TESTAMENTO. Per un cristiano sembra una cosa inutile e sorpassata leggere l'Antico Testamento, almeno per due ragioni fondamentali. La prima perché è composto di regole e di costumi ebraici non comprensibili alla nostra cultura occidentale. La seconda perché Cristo e il suo insegnamento sono la realtà di quello che era figura nell'antico. Ma vediamo ora almeno 7 motivi perché la lettura e la fede nell'Antico Testamento sono ancora validi e indispensabili. 1. Perché è parola di Dio. Quando Gesù parlava spesso citava l'Antico Testamento dando ad esso la stessa autorità delle sue parole e lo considerava parola di Dio. 2. Per una ragione cronologica. Storicamente parlando, il Nuovo Testamento è il seguito dell'Antico. Gli avvenimenti descritti nei Vangeli e nelle Epistole si possono capire solo tenendo presente quelli descritti nell'Antico. Cercare di capire il nuovo senza aver letto l'antico è come vedere un film dal secondo tempo. Per ovvie ragioni, certe frasi e certe reazioni sono comprensibili solo dopo aver visto la prima metà. 3. Per una ragione dottrinale. Le dottrine del Nuovo Testamento sono comprensibili solo se si tiene presente le verità rivelate nell'antico. È impossibile capire l'universalità del peccato se non si conosce il dramma dell'Eden. 4. Testimonia la messianicità di Gesù. Qualsiasi uomo poteva dire di essere il Messia, ma solo colui che adempiva le profezie a suo riguardo poteva essere il Cristo. Non a caso gli scrittori del Nuovo Testamento fanno molte citazioni dell'Antico per dimostrare che Gesù era il Messia, il Cristo. 5. Serve per capire il nuovo. Quando Giovanni il Battista disse di Gesù ecco l'agnello di Dio, egli esprimeva un concetto che poteva essere compreso solo da chi aveva conoscenza dei sacrifici ebraici. Quando Paolo affermò che Gesù è la nostra Pasqua si riferiva ad un avvenimento dell'Antico Testamento. 6. Gli insegnamenti spirituali sono eterni. E è sufficiente ricordare la validità dei 10 comandamenti e quello di amare il prossimo? Comandamenti questi espressi nei primi libri della Bibbia. 7. Ci sono profezie ancora inadempiute. Molte profezie dell'Antico Testamento non si sono ancora avverate. E è sufficiente ricordare quella citata da Gesù dal libro di Daniele e di cui lui ne vede una realizzazione futura. MT 24, 15-31. DATEIMPORTANTIDELLANTICOTESTAMENTO. Le date qui elencate sono in cifra tonda approssimativa e incerte. Esse indicano tuttavia con sufficiente accuratezza la sequenza storica di fatti e personaggi, pertanto sarebbe utile impararle a memoria per poter collocare nel momento storico gli avvenimenti biblici. Adamo. Il diluvio. Abramo. Giacobbe. Giuseppe. Mosè. Esodo. Ruth. Samuele. Saul. Davide. Salomone. Divisione del regno. Cattività di Israele. Giuda vinto da Babilonia. Distruzione di Gerusalemme. Ritorno dalla cattività. Ricostruzione del Tempio. Ester diviene regina di Persia. Esdra si reca a Gerusalemme. Neemia ricostruisce. 1900 a.C. 1800 a.C. 1150 a.C. 1100 a.C. 1100 a.C. 1013 a.C. 973 a.C. 973 a.C. 721 a.C. 678 a.C. 478 a.C. 457 a.C. Se poi ai periodi si collega sia le date che i personaggi che li limitano, avremo una visione della storia ebraica non indifferente. Questo schema dovrà essere ricordato anche in seguito durante le altre lezioni. In questo modo assimileremo senza accorgersene i diversi periodi della storia ebraica, i panticotestamentoriarchi, dalla creazione a Giuseppe, 4000-1802, la conquista, da Mosè a Samuele, 1400-1103, la monarchia, Saul, Davide, Salomone, 1013-9734, la divisione, da Geroboamo a Sedechia 933-586, 5 la deportazione, da Sedechia a Ciro 606-536, 6 il rip, 7 periodo in Nuovo Testamento erbiblico, da Malachia a Matteo, 400 a Gesù, PROFILODSTORIABLICA, 1, IPATRIARCHI. L'Antico Testamento si apre con una magnifica descrizione della creazione dell'universo, quale sfera della rivelazione di Dio. Dio crea l'uomo a sua immagine, è il capolavoro della sua opera creativa. Il libro della Genesi, come appare dal nome il libro delle origini, e in esso vengono descritte la tentazione e la caduta dell'uomo, l'ingresso del peccato e della morte, l'aumento della scelleratezza e della corruzione, finché il giudizio inevitabilmente non si manifesta nel diluvio. La salvezza di Noè è la dimostrazione che la via che conduce alle benedizioni è la via dell'obbedienza e della fede. Un avvenimento di capitale importanza è la chiamata di Abramo in Ur di Caldea. Abramo, alla chiamata di Dio, viaggia da Ciaran a Canaan vivendo come un pastore nomade. Questa chiamata ha un profondo significato spirituale, è la testimonianza dell'iniziativa presa da Dio per scegliersi un popolo tratto dalle tenebre del paganesimo. Tale scopo trova la sua continuazione nelle successive lezioni di Isacco, Giacobbe. I discendenti di Abramo, emigrati in Egitto, diventano una nazione. 2. LACONQUISTA. Il libro dell'Esodo si apre con la provvidenziale preparazione e con l'educazione di Mosè affinché diventa servo di Dio e liberasse gli ebrei dalla servitù dell'Egitto. Dopo aver provocato una serie di terribili e drammatiche piaghe, Mosè fa uscire gli israeliti dall'Egitto dopo 430 anni dalla loro entrata. La destinazione immediata è il Monte Sinai, e là, con una solennità terrificante, viene stipulato un patto fra Dio ed il suo popolo. Il Decalogo costituisce il sommario del livello di condotta che il popolo di Dio deve tenere. Dopo la morte di Mosè, Giosuè conduce il popolo alla conquista della terra promessa. Nonostante le direttive assai chiare che aveva ricevute a causa del suo peccato e dei suoi compromessi, il popolo non riesce a soggiogare che in maniera imperfetta il paese. Questo fatto, per conseguenza naturale, conduce all'anarchia ed all'apostasia. Le 12 tribù ricevono in assegnazione una parte del paese, ma la loro posizione è incerta. E il sentimento di unità assai scarso. Il Dio punisce il loro peccato riducendoli in schiavitù, finché non si ravvedono e gridano a Dio per chiedere aiuto e liberazione. Allora vengono suscitati dei giudici per liberarle. L'ultimo dei giudici, Samuele, riveste nello stesso tempo le cariche di capo militare, di profeta e di sacerdote. Il sistema teocratico di governo ha però termine. D'allora in poi, il potere religioso e civile vengono separati, anche se non sempre nella pratica era così. Il sistema teocratico aveva messo in evidenza la relazione tutta speciale che esisteva fra Dio ed il suo popolo, cioè sul fatto che Dio solo era re e governatore. Ma Israele volle avere una forma di governo uguale alle nazioni che lo circondavano. 3. Lamonarchia. In obbedienza al comando di Dio, Samuele unge Saul affinché diventi re e si dedica unicamente alle sue funzioni di sacerdote e profeta. Ma Saul dimostra subito di non essere integro nelle vie di Dio. Così Davide, un giovane pastore di Betlemme, viene chiamato da Dio e unto da Samuele affinché assuma il comando militare di Israele. Saul, conscio di essersi allontanato da Dio, cerca sollievo nello spiritismo e viene ucciso vergognosamente in battaglia. Davide si trova davanti il regno diviso e in un primo tempo viene riconosciuto solamente da Giuda, ma poi il suo favore militare e la sua politica conciliativa gli guadagnano anche la fedeltà delle tribù del nord. Davide dedica Gerusalemme come la capitale politica e più tardi, quando vi viene costruito un santuario centrale, anche religiosa. Salomone succede a suo padre ed ha il grande privilegio di poter costruire il tempio. Il suo regno è magnifico e culmina con la costruzione sia del tempio che del palazzo reale, con l'edificazione delle mura di Gerusalemme e lo sviluppo del commercio estero. Ma la grandiosità di tutte queste opere ben presto si dimostra più apparente che reale, perché i grandi progetti di costruzione rendono necessari i lavori forzati e creano gravi malcontenti nel popolo. 4. Ladivisione. Alla morte di Salomone nel 933 AC, le tribù del nord esprimono chiaramente il loro scontento e la loro insoddisfazione. Roboamo, figlio di Salomone, stoltamente consigliato, rifiuta di fare qualsiasi concessione al popolo, provocando in tal modo la rivolta delle tribù del nord sotto il comando di Geroboamo. Il regno di Israele è così diviso in due, durando appena 3 generazioni. La parte settentrionale composta di 10 tribù, chiamata Israele o regno del nord, dura ancora 200 anni e viene ridotta in schiavitù dagli Assiri nel 721 AC. La parte meridionale, chiamata Giuda o regno del sud, sopravvisse all'altra di circa 100 anni e viene condotta in cattività a Babilonia verso il 600 AC. 5. Ladiportazione. Mentre il popolo di Israele è lontano dalla sua terra, il Signore non lo abbandona. Geremia. Egli dichiara che l'ira e l'indignazione di Dio erano passate e che un rimanente degli esuli ritornerà con uno spirito rinnovato. Daniele rivela da parte di Dio che Israele sarà dominato da 4 regni prima che si stabilisca il regno di Dio sulla terra. 6. Ilritorno. Ciro, il re persiano, è lo strumento inconscio nelle mani di Dio per portare al compimento il suo piano. La politica di Ciro facilita il rimpatrio dei popoli deportati. In accordo con tale atteggiamento, viene fatto un decreto nel 536 a.C., poco tempo dopo la caduta di Babilonia, con il quale veniva concesso ai giudei di ritornare nel loro paese. Una scena di desolazione li attendeva al loro ritorno. Ma agli esuli stanchi e scoraggiati viene dato un potente stimolo dai profeti Ageo e Zaccaria, che esortano il popolo a costruire il secondo tempio. Più tardi, sotto la guida di Esdra e di Neemia, si determina una felice collaborazione fra mondo religioso e Stato, per cui il tempio, le mura e la città vengono costruiti. Così, nei giorni che seguono l'esilio, profeti, sacerdoti e uomini di Stato si protendono in comune sforzo a mantenere la purezza morale e cerimoniale. I matrimoni misti vengono sciolti, l'usura e la bestemmia vengono condannate, la necessità dell'osservanza del sabato viene messa in evidenza. Israele riprende vita come entità nazionale. La storia biblica si chiude 400 anni prima della venuta del Messia, Gesù Cristo. 7. PERIODOINTERBIBLICO. Durante i 400 anni che intercorrono tra Malachia e la venuta di Cristo, si svolgono in Palestina degli avvenimenti che determineranno lo scenario che troviamo nel Nuovo Testamento. Al termine dell'Antico Testamento, la Giudea era una provincia persiana, mentre più tardi passa sotto la dominazione greca. In seguito vi è un periodo di indipendenza con la rivolta dei Maccabei, poi nell'anno 63 AC, la Palestina venne conquistata dai Romani. Sotto GENESI. Genesi significa origine, principio e prende le radici dalla traduzione in greco del termine ebraico, col quale inizia il primo libro dell'Antico Testamento. In esso si racconta, tra le altre cose, l'inizio della creazione dell'universo, dell'umanità, del peccato e di ogni altro tema che si rivelerà fondamentale durante tutto lo svolgersi della narrazione biblica. Sono tanti gli argomenti che vengono trattati nel corso della Genesi, ma il tema della nascita del popolo di Israele è certamente il fondamento e lo sfondo del Con il termine periodo, non vogliamo tanto considerare il tempo storico nel quale si collocano gli avvenimenti narrati dalla Genesi, quanto considerare gli avvenimenti stessi quali punti di riferimento allo svolgersi della narrazione biblica. Nel caso in specie, il libro della Genesi racconta ciò che avviene dalla creazione alla morte di Giuseppe. Capitolo 1:11 narrano la storia dell'umanità. Capitolo 12:36 narrano la storia di Abramo. Capitolo 37:50 narrano la storia di Giuseppe. CAPITOLIDA 1-3A. La creazione. 1. Sono ricorrenti alcune contestazioni riguardo a questi capitoli che portano a ritenere la Genesi un libro non credibile in quanto contro la scienza. Per contro, possiamo osservare che lo stesso Gesù, MT 19:16, volendo contestare alcune errate convinzioni dei farisei, fa esplicitamente riferimento all'opera del Creatore, mentre Paolo esprime lo stesso concetto rivelando meravigliosamente il piano di Dio di cui la creazione è testimonianza vivente. Ro 1:19-21. Oltre a ciò, l'Apostolo ricorre altre volte al libro della Genesi come fondamento della propria dottrina. Ro 1:5-12, 1 Co 15:54. 2. L'idea corrente che fa risalire la creazione del mondo a circa 6.000 anni addietro è un errore di cui la Bibbia non è affatto responsabile. Se la Scrittura affermasse che Dio ha creato i cieli e la terra in 6 giorni, questa idea avrebbe un fondamento ragionevole, ma noi leggiamo in Genesi 1:1 che nel principio Dio creò i cieli e la terra. E, solo in rapporto alla restaurazione della terra, della creazione degli astri, degli animali e dell'uomo che la Bibbia descrive i 6 giorni, Dio ordinò all'uomo di riposarsi il 7° giorno, perché egli fece il cielo e la terra in 6 giorni, e il 7° si riposò. Es 20:8-11. Questa ultima espressione indica il nostro sistema solare, anziché la distesa dei cieli, dove mise i 2 grandi luminari, il Sole e la Luna, 1:17. La parola di Dio ci pone davanti non l'origine primiera dell'universo, ma la sistemazione della Terra, perché diventasse la dimora dell'uomo, dichiarando semplicemente che il Dio ha fatto ogni cosa in 6 giorni. 3. La teoria che i 6 giorni siano 6 ere non regge. Al 6° giorno Dio fece gli animali della terra e l'uomo. Se i 6 giorni fossero ere, bisogna concludere che l'uomo e la donna vissero un'era, che Dio si riposò un'era, e di conseguenza Adamo ed Eva peccarono solo dopo aver vissuto 2 ere. Niente di più assurdo. Non vedo alcuna ragione per non ritenere quei giorni di durata uguale a quelli solari. Anche se riscontriamo che il sole è stato fatto il 4° giorno, e la luce come entità fisica il 1° giorno. La creazione e la disubbidienza di Adamo ed Eva possono essere compresi solo accettando letteralmente ciò che leggiamo nel libro della Genesi, Eb 11:3. B. Il riposo di Dio. Il riposo di Dio ha il significato di cessare, smettere, e non di riposare quasi egli fosse stanco. C. La prima promessa. La prima promessa si trova nel capitolo 3 e versetto 15. La progenie è riferita a Cristo e non a Maria. Come sostiene il cattolicesimo? D. Com. È una bugia. La bugia è spesso detta sotto forma di mezza verità come fece il serpente. E. Il sentimento di insoddisfazione. Il sentimento di insoddisfazione, inoculato da Satana ad Adamo ed Eva, è forse quello più usato dal maligno per rovinare e impedire la crescita spirituale dei figli di Dio. Da questo capitolo inizia la storia dei discendenti di Adamo. L'episodio tristemente famoso dell'omicidio di Abele, ad opera del fratello Caino, costituisce uno dei fatti salienti del capitolo. Al proposito, è opportuno sottolineare la ragione per cui Dio considerò bene accetto la persona e l'opera di Abele. L'autore della lettera agli ebrei ricorda che ciò avvenne per mezzo della fede. 2:4. Un'altra considerazione da fare è che l'insieme della rivelazione biblica non ci autorizza ad affermare che Caino ed Abele siano stati i primi figli di Adamo ed Eva, ma essi sono ricordati per primi a causa dell'omicidio avvenuto. Questo spiega come Caino trovò moglie. A conferma di ciò, basti pensare alla nascita di Mosè. Stando a ciò che viene descritto dall'autore sacro, si potrebbe ritenere che Mosè sia stato l'unico figlio di Levi. Solo più avanti scopriremo che egli aveva un fratello e una sorella più vecchi. Esodo capitolo 2:4. Ah, i figlioli di Dio. I figlioli di Dio, nominati al versetto 2 che sposarono le figliole degli uomini, sono i discendenti di Set, i quali cominciarono a invocare il nome dell'Eterno. I figlioli degli uomini sono i discendenti di Caino, i quali non seguivano la volontà di Dio. Coloro che seguivano il Signore si sono sposati con dei non credenti, favorendo in tal modo l'espandersi del male. B. Il pentimento di Dio. Al versetto 6 è scritto che l'Eterno si pentì di aver fatto l'uomo. Se leggiamo quanto contenuto in 1 Samuele 15:59 o in Romani 2:29, si comprenderà che il Signore non si rammarica mai di se stesso o di cose da Lui precedentemente decise. Quando la Scrittura afferma che Dio si pente, significa che da quel momento Egli cambia atteggiamento verso l'uomo. C-A-P-I-T-O-L-I, 7-9. Si narra la storia del diluvio che Dio provocò sulla terra, poiché vide che il cuore degli uomini concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. 6-5. Esso coprì tutta la terra, perché tutte le altre montagne che erano sotto tutti i cieli furono coperte. G7-19. Una curiosità. Potevano gli animali stare tutti nell'arca? Un noto tassonomista, un esperto nella classificazione degli animali, ha stimato che vi siano più di 1 milione di specie di animali che vivono sulla Terra. Analizzando i suoi dati, scopriamo che un gran numero di animali poté sopravvivere al diluvio perché quegli acquatici non morirono. Infatti, morirono solo gli animali che erano sulla terra asciutta. G7:22. Rimanevano così solo 17.500 specie di animali che dovevano essere salvate. Contando che occorre un maschio e una femmina, Noè ha raccolto nell'arca 35.000 animali. Ora, considerando le dimensioni dell'arca e degli animali, possiamo concludere che potevano starci tutti. La maggior parte degli animali sono più piccoli di una pecora. Ora, 35.000 pecore si possono mettere in 146 vagoni merci. L'arca era lunga 132 metri, larga 22 e alta 13. Un cubito equivale a circa 45 centimetri. Essa aveva quindi la capacità di 522 vagoni merci, cioè tre volte la capacità di 35.000 pecore. Sulla base di questi dati gli animali potevano stare benissimo in un solo piano dell'arca. Quando Dio fa le cose, le fa sempre in abbondanza. E, diviso in due parti. A. Dai versetti 1 a 9 si narra l'episodio della Torre di Babele. B. Dai versetti 10 a 32 è contenuta la genealogia di Abramo, il decimo da Noè, come Noè fu il decimo da Adamo. Il versetto 31 ci fa comprendere che quando Abramo uscì da Ur dei Caldei, Dio gli aveva già parlato. E l'ordine di andare verso Canaan venne impartito al patriarca solo dopo che suo padre fu morto. Confronta Atti 7, 3 a 4. Da questo capitolo comincia la storia di Israele, la quale costituisce l'argomento principale del libro. Abramo è il capostipite, cioè il primo, di questa nuova nazione. Le promesse che Dio fece ad Abramo per i suoi discendenti furono principalmente tre. 1. Il Signore disse ad Abramo: va, via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. 2. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. 3. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. 1. Avrebbero ereditato il paese di Canaan. 2. Sarebbero diventati una grande nazione. 3. Sarebbero stati mezzo di benedizione per tutti i popoli. Se confrontiamo la richiesta di separazione con quella contenuta in Luca 14, 25-26, comprendiamo che come Dio ha voluto rendere grande e potente il popolo di Israele, altrettanto vuole fare con il popolo della sua Chiesa. Il verbo odiare che troviamo in Luca deve essere letto nel suo significato di separarsi, allontanarsi, amare meno. La storia di Abramo e della sua progenie è contrassegnata da questi avvenimenti. 1. Abramo e sua moglie Sara hanno un figlio, Isacco. 2. Isacco e sua moglie Rebecca ebbero due gemelli, Esaù e Giacobbe. 3. Dio sceglie Giacobbe come erede della promessa. Giacobbe ha due mogli, Lea e Rachele, e due concubine, Bilha, serva di Lea, e Zilpa, serva di Rachele. 4. Giacobbe ebbe 12 figli, i quali divennero i capostipiti delle 12 tribù di Israele, 35, 23, 2, 6. 5. I 12 figli di Giacobbe sono Ruben, Simeone, Levi, Giuda, Issacar, Zabulon, Lea, Dan, Neftali, Bilha, serva di Lea, Giuseppe, Beniamino, Rachele, Gad, Asher, Zilpa, serva di Rachele. CAPITOLI 3750. In questi capitoli vengono narrati episodi della vita di Giuseppe per dimostrare come e perché, in seguito nelle 12 tribù di Israele, vi saranno i due figli di Giuseppe. Prima di morire, Giacobbe disse a Giuseppe che i suoi due figli, Efraim e Manasse, sarebbero stati suoi. 48:5, cioè sarebbero stati considerati come suoi figli. In effetti Manasse e Efraim diventeranno parte delle 12 tribù di Israele. Con l'entrata di Efraim e Manasse nei figli di Giacobbe, le tribù di Israele sarebbero 14. Il numero delle tribù rimarrà 12, perché verranno sostituiti Giuseppe e Levi. Levi diventerà una tribù a parte, perché servirà Dio. CAPITOLO 38. I capitoli 37 e 50 che narrano quasi esclusivamente la vita di Giuseppe vengono interrotti dal capitolo 38 dove viene raccontato un episodio della vita di Giuda per dimostrare come e perché nacquero Perez e Zerach, i due gemelli di Giuda. Dalla discendenza di Perez sarebbe poi nato Davide e Gesù, il figlio di Maria. Dobbiamo avere in mente i punti salienti. Ecco qui di seguito, in ordine cronologico, tali avvenimenti. Ina, il libro della Genesi inizia con il racconto della creazione dei cieli e della terra, da parte di Dio. 2. Il sesto giorno Dio creò l'uomo e la donna ponendolo nel giardino dell'Eden, con l'ordine di non mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. 3. Adamo ed Eva disubbidirono e vennero cacciati dal giardino. 4. Adamo ed Eva ebbero molti figli, tra i quali Caino ed Abele. 5. Caino uccise Abele e si allontanò dalla presenza di Dio. 4 e 16. Dando inizio ad una generazione che non faceva la volontà di Dio. 6. La generazione di Adamo si mescolò con la generazione di Caino, e in questo modo la malvagità aumentò. Allora Dio decise di far venire il diluvio sulla terra per sterminare tutti gli uomini. 7. Dal diluvio si salvarono solo Noè, sua moglie e i loro 3 figli con le loro mogli, in tutto 8 persone. 8. Il Signore diede loro l'ordine di crescere, di moltiplicarsi e riempire la terra. Ma gli uomini disubbidirono e si costruirono la torre di Babele, per cui Dio confuse il loro linguaggio in modo che gli uomini lasciarono stare il loro insano proposito. 8. Dio chiama Abramo come capostipite di una nuova generazione. 9. Abramo genera Isacco. 10. Isacco genera Giacobbe. 11. Giacobbe ha 4 mogli, dalle quali ha 12 figli, cui nomi saranno le 12 tribù di Israele. 12. Giuseppe viene venduto dai fratelli e portato in Egitto, dove diventa vice faraone. 13. In occasione di una carestia, Giacobbe e tutti i suoi discendenti scendono in Egitto dimorando a Goshen. 14. Il libro della Genesi termina con la morte di Giacobbe e di Giuseppe. DOMANDSULLAGENESI 1. Qual è il significato del titolo di questo libro? 2. Elenca ciò che fu creato in ognuna delle 6 giornate della creazione. 3. Come entrò il peccato nel mondo? 4. Chi era Noè e come si chiamavano i suoi figli? 5. Quando Dio chiamò Abramo, quali 3 promesse gli diede? 6. Elenca i nomi dei figli di Giacobbe e indica anche il nome della madre di ciascuno. 7. Come fece Giuseppe a diventare viceré? Descrivi brevemente la sua storia. ESODO. La parola Esodo significa uscita. Il titolo del libro è dato dall'episodio più conosciuto e più spettacolare di questo libro della Bibbia. L'uscita del popolo di Israele dal paese d'Egitto è avvenuta in mezzo a segni e prodigi portentosi. Questo libro parla del patto con Israele. Se l'uscita costituisce l'aspetto più clamoroso, il patto con Israele è certamente il fatto più importante che segnerà la storia non soltanto del popolo eletto, ma di tutti gli uomini sulla terra. Da Goshen al Sinai. Ciò che l'autore si... Il viaggio durò 3 mesi. 19.1. Capitoli 1.18. Il popolo di Israele parte da Goshen e arriva al monte Sinai. Capitoli 19.40. Sono descritte le prime leggi morali e religiose. A Mosè. La vita di Mosè durò 120 anni e può essere divisa in 3 periodi di 40 anni. 1. Il primo periodo lo visse alla corte di Faraone. 2. Il secondo periodo nel deserto. 3. Il terzo comprende la chiamata di Dio affinché Mosè conducesse il suo popolo verso la terra. B. L'indurimento del cuore del Faraone. Si osservi come l'indurimento del cuore del faraone da parte di Dio sia la conseguenza dell'indurimento che lo stesso faraone operò fin dall'inizio nel suo cuore e per ben 6 volte consecutive. Il faraone indurì il suo cuore. 7 e 13, 7 e 22 e 23, 8 e 1 quarto, 8 e 19, 8 e 3. Dio indurì il cuore del faraone. 9 e 12, 10 e 20 e 27. L'indurimento del cuore dell'uomo è una maledizione di Dio. La 3 e 65. A causa della sua incredulità. Ebi 3, 7, 19. C. I 430 anni. Al capitolo 12 e al versetto 40 la scrittura afferma che la dimora che i figlioli di Israele fecero in Egitto fu di 430 anni, mentre Dio disse ad Abramo che i figlioli di Israele sarebbero stati schiavi ed oppressi per 400 anni. Questa affermazione non è contraddittoria in quanto i primi 30 anni delle dimora degli israeliti in Egitto non fu di schiavitù. D. Salvati per fede. Es 12, 21-28. Quando nell'ultima piaga il distruttore uccise tutti i primogeniti d'Egitto, è possibile che alcuni fra i giudei abbiano avuto paura di subire la medesima sorte degli egiziani, ma il sangue sull'architrave non permise al distruttore di entrare. Versetto 23. Forse qualcuno che ha creduto nel sangue di Cristo è titubante riguardo alla salvezza, ma la fede in Cristo e non i sentimenti è quella che ci assicura la salvezza dall'ira di Dio. Ro 5:9. E Dio punisce l'iniquità dei padri sui figli. Es 34:6-7. L'affermazione che Dio punisce l'iniquità dei padri sui figli ha creato a molti degli interrogativi. Innanzitutto, Dio ha ordinato che i figli non siano messi a morte a causa dei peccati dei loro genitori. De 16:00. Conf. 2 R 14:6 e 2 CR 25:4. Questa verità ci conduce ad una equilibrata interpretazione. Da ciò che possiamo osservare nella vita è che a volte i figli portano le conseguenze degli errori dei genitori. Un padre alcolizzato può generare figli anormali, una madre drogata genera figli ammalati. Se ciò viene considerato ingiusto, è sufficiente sottolineare che tutte le leggi infrante hanno delle conseguenze negative, anche per chi non ne ha colpa. Un errore di un pilota dell'aereo è causa di centinaia di morti. Allo stesso modo il genitore che per errore somministra al figlio del veleno è causa della morte di quest'ultimo. Mentre l'affermazione di Dio di punire l'iniquità dei padri sui figli fa un certo effetto a tutti, pochi colgono l'altra promessa di Dio. Sei, il Signore passò davanti a lui e gridò: il Signore è il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà. 7. Che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato. Se tu sei un cristiano e fai del bene, ciò verrà considerato per sempre sulla tua generazione. Un esempio è Abramo, che per la sua fede e la sua discendenza è benedetta per sempre. F. La malattia incurabile dell'incostanza. Israele aveva sperimentato una meravigliosa salvezza. Il Mar Rosso si era diviso. Per questo cantò: questi è il mio Dio, io lo glorificherò, è il Dio di mio padre, io lo esalterò. 15:2. Passarono solo 3 giorni e in un momento di distretta mormorò contro Dio. 15:22-24. Come siamo volubili. G. I 10 comandamenti. E utile imparare a memoria i 10 comandamenti oltre che ricordare dove si trovano. H. Il valore eterno dei 10 comandamenti. Una prova che la legge di Dio è eterna e immutabile è data dal modo in cui Dio ha promulgato i 10 comandamenti. Gli studiosi fanno notare che numerose raccolte di leggi sono più antiche del Decalogo, come per esempio il codice di Lipit-Ishtar, il codice Eshnunna, il codice di Hammurabi ed i codici Ittiti. Ma il fondamento su cui si basavano tali raccolte di leggi è la casistica. Cioè, se una persona operava una certa cosa, avrebbe avuto una certa conseguenza. Mentre nel Decalogo troviamo la proposizione apodittica, esempio non mentirai, non ruberai, per cui quella cosa non andava né fatta né desiderata in quanto di per sé ingiusta, senza specificare le conseguenze dell'azione, né minacciare la pena. La proibizione espressa col futuro non comporta limitazione di tempo. Essa mostra che l'azione, o lo stato indicato dal verbo, continua a prodursi. I. La traduzione dei 10 comandamenti. Abbiamo considerato che Dio ha dato i 10 comandamenti in forma apodittica. Non ruberai, non mentirai. I comandamenti che abbiamo tradotti nelle nostre Bibbie non mantengono tale proposizione, per cui inevitabilmente sorgono difficoltà di interpretazione. Un esempio la diamo nel comandamento non uccidere. Ecco una domanda che spesso viene posta. Come mai Dio ha stabilito la pena di morte, mentre nella sua legge, cioè i 10 comandamenti, ha ordinato di non uccidere? Se teniamo presente che l'ordine di Dio è «non assassinerai», già di per sé, questa traduzione enuncia tante verità. Dio non ha vietato l'uccisione, altrimenti si sarebbe contraddetto. Ha vietato l'omicidio inteso come atto contenente in sé ragioni di vendetta, di rivendicazione, di odio, ossia perpetrato per tutti quei motivi che non rientrano nella volontà di Dio. Per esempio, se un ladro veniva colto di notte a compiere uno scasso, veniva percosso e moriva, non vi era delitto di omicidio. Ma se il sole era già alzato, vi era delitto d'omicidio. Es 22:2-3. Inoltre, il vindice del sangue aveva tutti i diritti di uccidere l'omicida quando lo incontrava, se questo non si era rifugiato in una delle città di rifugio. Nu 35:19-21. Perché queste distinzioni? Perché l'ingiunzione di Dio di non uccidere è stato dato per la conservazione della razza, mentre la tolleranza da parte di Dio di uccidere in certi casi è stata concessa per mantenere l'ordine fra gli uomini ed ha, in fondo, sempre lo stesso scopo, che è quello della conservazione della specie. Dovrebbe essere chiaro che il sesto comandamento di non uccidere non è un principio astratto e universale, per cui ogni forma di vita deve essere sempre e in ogni caso difesa. Il comandamento sottolinea piuttosto che tutte le questioni riguardanti la vita e la morte dell'uomo sono di competenza diretta di Dio. 1 Es 2:6. Egli, attraverso gli uomini, può punire con la morte il peccato di altri uomini. Infatti, la spada che i magistrati civili portano, in qualità di autorità stabilite da Dio, Ro 13:4, fa capire che tale agire resta valido anche nel nuovo patto. Compreso ciò, tante cose trovano il loro posto. 1. Il libro dell'Esodo riprende la storia del popolo di Israele dopo 400 anni di dimora in Egitto. 2. Dio chiama Mosè per liberare il suo popolo. 3. Mosè conduce il popolo dall'Egitto al monte Sinai, dove riceve le tavole della legge. 4. Il libro dell'Esodo copre un periodo storico di 3 mesi, Es 19:1. Le piaghe dell'Esodo e gli dei d'Egitto. Le 10 piaghe, Es 7:14-12:36, erano 10 giudizi caduti sull'Egitto, e avvennero molto, probabilmente in un arco di tempo di 9 mesi. La prima piaga quando il Nilo era in piena, luglio-agosto. La settima, 9:31 in gennaio, quando l'orzo era in spiga e il lino in fiore. Per mezzo delle piaghe, Yahweh giudicò i numerosi dei d'Egitto e si mostrò palesemente 4 e superiore a loro. Il prospetto qui sotto aiuta a capire la relazione tra ogni piaga e il Dio colpito. Passo in Esodo. Piaga. Il Dio colpito. Nilo cambiato in sangue. Api e Iside dei del fiume. 7:14-25. 8:1-15. 8:16-19. 8:20-32, 9:1-7, 9:8-12, 9:13-35, 10:1-20, zanzare, mosche velenose, mortalità del bestiame, ulcere grandine, locuste tenebre, H.E.K. Antico Testamento H.O.R. Dea con la testa di mucca, S.E.K.H.M.I.T. Dea della guarigione, Nut, Dea del cielo, Set, Dio della tempesta, Osiride, Dio del raccolto. Osiride, Dio del raccolto. R.A., il sole. Horus, Dio del sole. Mio, Dio della riproduzione. Il primogenito di Faraone, ritenuto un Dio. 11:1, mezzogiorno e mezzo. Morte dei primogeniti. Le piaghe servirono a dimostrare sia al Faraone. 17:8-10:22, 9:14-16. Ma mostrarono questa importante verità anche a Israele. 10:2. IDIECICOMANDAMENTI. Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. 1. Non avere altri dei oltre a me. 2. Non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso bontà fino alla 1000ª generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. 3. Non pronunciare il nome del Signore, Dio tuo, invano, perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome. Lavora 6 giorni e fa tutto il tuo lavoro, ma il settimo è giorno di riposo, consacrato al Signore Dio tuo. Non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città. Poiché in 6 giorni il Signore fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato. 5. Onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà. 6. Non uccidere. 7. Non commettere adulterio. 8. Non rubare. 9. Non attestare il falso contro il tuo prossimo. 10. Non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna del tuo DOMANDESUESODO 1. Cosa significa Esodo? E perché questo libro ha questo nome? 2. Quanto tempo rimase Israele in Egitto? 3. Come può essere divisa la vita di Mosè? 4. Elenca le 10 piaghe di Egitto. 5. Cosa dovevano fare gli israeliti per scampare all'ultima piaga? 6. Come termina, dal punto di vista storico, il libro dell'Esodo? L-E-V-I-T-I-C-O. Riguardanti i Leviti. Il titolo è preso dal termine che indica i futuri sacerdoti del popolo ebraico. Regole per il culto. Poiché il titolo riguarda i sacerdoti, l'argomento di conseguenza è costituito dalle norme che disciplinano tutto il momento celebrativo, che occupa un posto molto importante nella vita spirituale degli ebrei. La dimora nel Sinai. Il libro narra ciò che il Signore ha insegnato al suo popolo durante la sosta al Monte Sinai. È difficile suddividere un libro come quello del Levit. A noi basta ricordare che i capitoli 8, 9, 10 ci narrano della consacrazione di Aronne e dei suoi figlioli come sacerdoti, dei primi sacrifici offerti da questi, e della morte di Nadab e Abihu perché offersero del profumo non secondo la volontà di Dio. Tutta la legge ebraica può essere divisa in 3 parti. A. La legge ebraica. 1. Legge sociale o civile. E. Quella riguardante la relazione tra le persone. Un esempio lo vediamo al capitolo 19 dove si parla di opere, di poveri, di malati e di vecchi. 2. Legge religiosa. E. Quella riguardante i vari tipi di sacrifici di riparazione ed espiazione e le varie norme cultuali, cioè riguardanti il culto. Un esempio possiamo vederlo ai capitoli da 1 a 7. 3. Legge morale o spirituale. Sono quelle leggi riferite ai rapporti spirituali sia con Dio che con gli uomini. Un esempio possiamo vederlo nei capitoli 18, 19 e 20, dove Dio chiede di essere onesti, puri, giusti, eccetera. È evidente che la legge spirituale e morale si trova anche nelle leggi civili e religiose, perché un atto spirituale, come quello di amare il prossimo, non può essere espresso se non tramite un fatto concreto. Quando Gesù disse ai giudei che egli non era venuto per abolire la legge, egli faceva riferimento alla legge spirituale e non alle altre due, perché l'Evangelo era destinato ad essere predicato e vissuto da ogni popolo con una cultura propria e l'imposizione di un'altra cultura avrebbe limitato il messaggio evangelico. B. Il comandamento di amare il prossimo 34 venne i farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si radunarono. 35 Uno di loro, dottore della legge, gli domandò per metterlo alla prova. 36 Maestro, qual è nella legge il gran comando? 38 Questo è il grande e il primo comandamento. 39 Il secondo simile a questo è: ama il tuo prossimo come te stesso. 40 Dalton, questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti, e metti 22. Quando Gesù mise in evidenza i due più grandi comandamenti non rivelò nulla di nuovo. Infatti leggiamo nel libro del Levitico. 17. Non odierai tuo fratello nel tuo cuore, rimprovera pure il tuo prossimo ma non ti caricare di un peccato a causa sua. 18. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il prossimo tuo come te stesso. Io sono il Signore. Le 19. Ancora una volta Gesù non ha dettato una morale nuova. Il cristianesimo si fonda sulla morale dell'Antico Testamento, diventando così l'unica religione che ha le sue radici in un'altra religione. Troviamo nel Levitico la formula di benedizione che gli ebrei usano tuttora, 6, 22, 27. C. La formula di benedizione. Il libro del Levitico fu scritto durante la permanenza del popolo di Israele al Sinai, durata 2 anni. D. Il periodo della stesura del libro. 1. Un avvenimento di rilievo in questo libro sono la morte di Nadab e Abihu, due figli di Aaron. 2. La legge giudaica può essere divisa in 3 parti, civile, cerimoniale e spirituale. 3. Nel libro del Levitico troviamo l'ordine di Dio di amare il prossimo. 4. Il libro del Levitico è stato scritto da Mosè durante la permanenza al Sinai. 2. Come può essere suddivisa la legge giudaica? 3. Come morirono Nadab e Abihu e perché? 4. Quale grande comandamento troviamo in questo libro e dove? 5. Quando fu scritto il libro del Levitico? 6. Scrivi la formula di benedizione del popolo di Israele. N-U-M-E-R-I. Il titolo di questo libro prende spunto dai 2 censimenti narrati in esso. A. Al Sinai, il secondo anno dopo l'Esodo. B. Al Giordano, il 40° anno. I fatti narrati in questo libro ci mostrano che tipo di atteggiamento spirituale ha avuto il popolo di Israele di fronte alle difficoltà del viaggio. I fatti narrati in questo libro comprendono 38 anni, cioè coprono il periodo dal Sinai fino davanti alla terra promessa. Il libro può dividersi in 3 parti. 1. Cap. 1 a 9. Si narra del primo censimento e vengono date nuove leggi. 2. Cap. 10 a 21. Sono narrati vari avvenimenti durante il viaggio. 3. Cap 22 a 36. Il popolo è accampato a Sittin di fronte a Gerico. Il libro dei numeri è una miniera di insegnamento. Il viaggio del popolo di Israele verso la terra promessa ha molte analogie con il cammino del cristiano verso la casa delle molte dimore. A proposito, l'apostolo Paolo scrisse ai Corinzi: queste cose avvennero loro per servire da esempio, e sono state scritte per ammonire noi, 1 Co 10 e 11. A. I 10 esploratori. E, in questo libro che si trova la narrazione dei 10 esploratori e che a causa dell'incredulità del popolo, esso è condannato a vagare nel deserto per 40 anni, capitolo 13 e 14. B. Il libro dei numeri è il libro delle mormorazioni. La dura sentenza di Dio di vagare nel deserto per 40 anni è arrivata solo dopo che il popolo ha tentato Dio per 10 volte. Nu 14 e 22. 1. Es 5. 19 e 21. 2. Es 14. 1 23. Es 15. 22 e 25. 4. Es 16. 1 12. 5. Es 17. 1 a 7. 6. Es 32, 1 a 14. 7. Nu 11, 1 a 3. 8. Nu 11, 4 a 35. 9. Nu capitolo 12, 10. Nu cap 13. Ci avete messi in cattiva luce. Perché siamo usciti dall'Egitto? Che berremo? Che mangeremo? L'Eterno è in mezzo a noi? Che ne è stato di Mosè? Mormorarono in modo irriverente. Chi ci darà la carne? Chi è Mosè? Inoltre il popolo mormora ancora. 11. La rivolta di Cor, Datan, Abiran, contro Aronne, capitolo 16. 12. A Meriba, e Mosè è preso dalla collera, capitolo 20. 13. Il popolo si impazientisce contro Dio, il quale invia i serpenti, capitolo 21. 14. Il popolo cade nell'idolatria e dissolutezza nelle pianure di Moab, capitolo 25. C. La morte di Maria ed Aaronne. Maria muore a Cades, mentre Aaronne muore sul monte Hor. D. La roccia e il serpente di rame. Sia Paolo che Gesù citano alcuni avvenimenti narrati in questo libro, che noi dobbiamo ricordare. 1 Co 10, 1 12, GV 3, 14 16. E. Balaam. Anche la storia di Balaam si trova in questo libro, ai capitoli 22, 23, 24, C, F, Giuda 11. F. Il desiderio di Mosè. È bello notare come Mosè, prima di morire, si preoccupi di chiedere a Dio che scelga un successore per poter introdurre il popolo nella terra promessa. 27:12-13. Un uomo di Dio ha una visione oltre la sua morte. G. Il periodo storico dei numeri. Il libro dei numeri copre il periodo storico più lungo del viaggio di Israele verso la terra promessa. 38 anni. H. Le due tribù e mezza. Le tribù di Gad, di Ruben e metà di quella di Manasse chiedono di abitare di qua dal Giordano. I là, la durata della permanenza nel deserto del Sinai. Il popolo di Israele soggiornò nel deserto del Sinai 2 anni e 2 mesi. Nu 10:11-13. L. I 12 esploratori. Nu 13:1-2. De 1:20-24. L'episodio dei 12 esploratori ha pesantemente condizionato il viaggio del popolo di Israele nel deserto. Ciò non può certamente passare inosservato. Dal libro dei numeri sembra che sia stato Dio di sua iniziativa a mandarli, ma in Deuteronomio apprendiamo che è stato il popolo di Israele a chiedere di mandare gli esploratori. La richiesta pareva innocua e lecita, ma ulteriori sviluppi hanno dimostrato che cosa si nascondeva nel cuore del popolo. Incredulità. Un desiderio innato nell'uomo è voler conoscere in anticipo che cosa lo aspetta, ma spesso tale atteggiamento nasce dallo scetticismo. La vera fede possiede fiduciosa il futuro. Colui che dubita della sovranità di Dio per ciò che deve avvenire ha poca fede. M. I confini di Israele. I confini di Israele sono descritti al capitolo 34:1-12, in Genesi 15:18, in Esodo 23:31, in Giosuè 1:4. N. L'ordine di cacciare i cananei. Come ultimo punto da ricordare, non meno importante, è che Dio continua a ripetere al popolo l'ordine di cacciare gli stranieri dalla terra promessa. 33:50-56. In seguito, gli israeliti non lo eseguiranno, e per questa ragione saranno cacciati dalla loro terra come Dio aveva promesso. Le 18:24-30. 24. Non vi contaminate con nessuna di queste cose, poiché con tutte queste cose si sono contaminate le nazioni che io sto per cacciare davanti a voi. 25. Il paese ne è stato contaminato, per questo io punirò la sua iniquità. Il paese vomiterà i suoi abitanti. 26. Voi dunque osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni, e non commetterete nessuna di queste cose abominevoli, né colui che è nativo del paese, né lo straniero che abita in mezzo a voi. 27. Poiché tutte queste cose abominevoli le ha commesse la gente che vi era prima di voi, e il paese ne è stato contaminato. 28. Badate che, se contaminate il paese, esso non vi vomiti come ha vomitato le nazioni che vi stavano prima di voi. 29. Poiché tutti quelli che commetteranno qualcuna di queste cose abominevoli saranno tolti via dal mezzo del loro popolo. 30. Osserverete dunque i miei ordini e non seguirete nessuno di quei costumi abominevoli che sono stati seguiti prima di voi, e non vi contaminerete con essi. Io sono il Signore vostro Dio. 1. Il libro inizia con un censimento e alcune regole cultuali. 2. Al capitolo 10, dopo 2 anni di sosta, il popolo di Israele parte dal monte Sinai verso la terra. 3. Il popolo, dopo il rapporto dei 12 esploratori, mormora e per questo vaga nel deserto per altri 38 anni. Cap. 13:14. 4. Mosè innalza il serpente di rame. 4. Balaam cerca di maledire il popolo di Israele, ma Dio glielo vieta. D-O-M-A-N-D-E-S-U-N-U-M-E-R-I. 1. Perché il libro ha questo nome? 2. Come si è comportato Israele davanti alle difficoltà durante il viaggio nel deserto? 3. Elenca alcune ragioni per cui il popolo mormora contro Dio. 4. Perché Israele vaga nel deserto per 40 anni per compiere un viaggio che avrebbe potuto fare in un paio d'anni? 5. Perché Dio ordina ad Israele di cacciare i popoli stranieri da Canaan? 6. Che periodo storico copre il libro dei numeri? D-E-U-T-E-R-O-N-O-M-I-O. Deuteronomio significa letteralmente seconda legge e deriva dall'inesatta traduzione che i LXX 70 hanno fatto del passo contenuto al capitolo 17, versetto 18, dove il vocabolo ebraico significa precisamente una copia di questa legge. In una parola si potrebbe dire che il contenuto del libro è volto ad esprimere l'esortazione all'ubbidienza della legge per essere felici e benedetti da Dio. 5 Melovin. Il titolo del libro può darci l'idea di una fredda ripetizione dei principi normativi che Dio ha comunicato a Mosè. Ma, leggendo attentamente, si vedrà come l'autore si sforzi non soltanto di ripetere, ma anche di spiegare e arricchire il contenuto della legge alla luce del contesto storico del popolo ebraico. Il libro prende in considerazione gli avvenimenti che vanno dal 40° anno dall'uscita dell'Egitto alla morte di Mosè. Il libro può essere diviso in tre parti. 1. Cap. 1 a 4. Mosè ricorda al popolo i vari avvenimenti successi durante il viaggio. 2. Cap. 5 a 30. Mosè ricapitola e ritocca, alla luce dei nuovi fatti, certe leggi. 3. Cap. 31 a 34. In questi capitoli è contenuto praticamente l'ultimo discorso di Mosè. L'ultimo capitolo è probabilmente stato scritto da un altro autore, forse Giosuè, anch'esso ispirato da Dio. A. L'uomo non vive soltanto di pane. E al capitolo 8 di questo libro che si trova il versetto citato da Gesù al diavolo quando questi lo tenta nel deserto. Matteo 4:4. Il testo in questione, l'uomo non vive soltanto di pane, ma vive di tutto quello che la bocca dell'Eterno ha ordinato, come afferma il libro del Deuteronomio, oppure non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma d'ogni parola che procede dalla bocca di Dio, come afferma Gesù in Matteo, non vuole significare che per l'esistenza dell'uomo sia necessaria la parola di Dio, ma che la vita umana dipende esclusivamente da ciò che Dio ha disposto secondo la sua parola. Pertanto l'uomo si mantiene in vita non perché si nutre, ma perché è Dio che lo vuole. La risposta di Gesù al diavolo è quindi chiara: è vero che ho fame, è vero che ho bisogno, ma non sono preoccupato, perché il mio Dio, se vuole che io non mangi, sa mantenermi in vita anche senza cibo. Ecco perché Gesù disse: non siate con ansietà solleciti per la vita vostra di quel che mangerete o di quel che berrete. MT 6 e 26. B. I falsi profeti, capitolo 13. Sono sempre esistite persone che parlano non per ordine di Dio. Come riconoscerli? Al capitolo 13, Dio afferma che se anche costoro facessero miracoli ma ci ordinano di abbandonare la sua legge, non bisogna ubbidire loro. C. La profetizzazione di un re. L'idea che Israele si sarebbe costituito un re era a quel tempo assurda, eppure Mosè avverte e ordina al popolo quello che il popolo e il re avrebbero dovuto fare. 17, 14, 20 e 28, 3, 6. Di conoscere il futuro, capitolo 18. Il desiderio di conoscere il futuro è innato nell'uomo, e Dio lo sa molto bene. Ed è per questo che egli proibisce di consultare indovini, maghi, chiromanti, eccetera, perché Dio avrebbe risposto diversamente. Infatti egli suscitò un profeta fra i tuoi fratelli, cioè Gesù Cristo, il quale ci parlò delle cose future, cioè tutto quello che Dio ha ritenuto opportuno che noi sapessimo. Le cose occulte appartengono all'Eterno, al nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figlioli, in perpetuo, perché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. 29:29. 1. Anche il libro del Deuteronomio non ha avvenimenti particolari, se non quello che narra la morte di Mosè. Ogni volta che leggiamo la parola di Dio, dobbiamo tener presente, quando ciò è possibile, il momento storico in cui è collocato l'argomento del testo in esame. Per aiutarci, prendiamo come esempio alcuni brani della Scrittura e cerchiamo, mentre leggiamo, di comprendere in quale libro è situato l'avvenimento descritto. A volte un versetto può contenere più di un avvenimento, pertanto lo schema può servire come orientamento. Abramo, Isacco, Giacobbe. Capitolo 12, 35. Versetto 1, 6, 2, 4, 2, 5. Storia di Giuseppe. Capitolo 37, 50. versetto 26-38. Mosè è uscita dall'Egitto. Capitolo 2:14. V. 39-40. La roccia di Horeb. Profezia adempiuta. Versetto 44-45. Questi due ultimi versetti narrano della conquista di Canaan. METTIINORDINECLONOLOGICOISAGUENTIAVVENIMENTI. 1. Dio dà i 10 comandamenti. 2. Nascita di Mosè. 3. Giacobbe si sposa. 4. Morte di Giacobbe. 5. Creazione dei pesci. 6. Caino uccide Abele. 7. Nascita di Ismaele. 8. Creazione dell'uomo. 9. Nascita di Isacco. 10. Il peccato di Adamo ed Eva. 11. Giuseppe venduto dai fratelli. DOMANDESUDEUTERONOMIO. 1. Di cosa tratta questo libro? 2. Perché era necessario ripetere la legge data sul Monte Sinai, così come è riportata in questo libro? 3. Fai una lista delle maledizioni come castigo per disubbidienza. 4. Fai una lista delle benedizioni promesse da Dio come premio per ubbidienza. 5. Mosè profetizza che Israele avrebbe avuto un re. Che cosa avrebbe dovuto fare il re? 6. Come e dove muore Mosè? G-I-O-S-U-E. Il libro prende il nome dal personaggio principale. Dopo la morte di Mosè è Giosuè il condottiero. Che provvederà all'ingresso di Israele nella terra promessa? Con questo libro inizia il racconto degli ebrei alla conquista di Canaan e il principio di una storia, nella quale gli avvenimenti e le avventure si fondono mirabilmente insieme al contenuto spirituale che sempre ha accompagnato la vita di Israele. Il libro inizia con gli eventi che compongono l'entrata in Canaan da parte del popolo ebreo guidato da Giosuè sino alla morte di quest'ultimo. 1. Cap. 1:12. Narrano le prime battaglie per la conquista del paese. 2. Cap. 13:22. Si narra della spartizione del paese. 3. Cap. 23:24. Vi è riportato l'ultimo discorso di Giosuè e descritta la sua morte. A. Il passaggio del Giordano. Non tutti danno l'importanza al passaggio degli israeliti del Giordano, ma questo avvenimento fu in pratica più spettacolare del passaggio del Mar Rosso, perché mentre il Mar Rosso si divise pian piano, mediante un gagliardo vento orientale durato tutta la notte, e ridusse il mare in terra asciutta, Esodo 14:21, il Giordano si divise in un attimo perché, appena i sacerdoti che portavano l'arca ebbero tuffati i piedi nell'acqua. Un avvenimento del genere si verificherà solo molti anni più tardi mediante i profeti Elia ed Eliseo. B. La manna. Il Dio provvide al popolo di Israele quando era nel deserto il mantenimento in un modo miracoloso, con la manna. Il giorno stesso che gli israeliti mangiarono dei frutti del paese, la manna cessò. 5:11. 12. E questo per significare che egli viene in aiuto in modo straordinario solo quando l'uomo non può fare nulla, perché al credente è chiesto di fare tutto il possibile per quanto gli riguarda. In caso contrario si tenta il Signore. MT 4:7. C. Gerico e Raab. Dobbiamo ricordare che è narrata in questo libro la storia di Gerico e di Raab, la prostituta. E importante notare che la fede di Raab era basata sulla testimonianza di un avvenimento avvenuto 40 anni prima, cioè il passaggio del Mar Rosso 2:10. D. La storia di Ai. La sconfitta del popolo di fronte alla piccola cittadina di Ai ci insegna che anche nelle piccole cose occorre essere in comunione con Dio. E. L'ordine di Giosuè. L'ordine di Giosuè di fermare il sole ha dato a molti scettici l'occasione di criticare la parola di Dio. Ma non vi è nulla di anomalo nell'affermazione di Giosuè, perché in quel momento non stava dando lezioni di astronomia insegnando che il sole girava intorno alla terra, ma usava l'espressione comune che usiamo tutti sull'apparente Gesù stesso per dimostrare l'amore di Dio, affermò che egli fa levare il sole sui buoni e sui cattivi, ma nessuno ha mai avuto problemi di astronomia su questa affermazione. Chi non accetta tale modo di Esprimersi incontra problemi ad accettare frasi simboliche di cui è piena la Bibbia, come per esempio: il vino è tagliato, PR 23 e 20. Rispondere alla domanda se il sole si è fermato oppure no mi sembra di poter asserire che anche questo fatto appartiene alle cose occulte di Dio. De 28, 28. Chi non accetta storicamente e realmente avvenuto questo episodio della vita di Giosuè, avrà serie difficoltà ad accettare episodi altrettanto eclatanti che verranno in seguito. Al tempo di Ezechia, 700 AC, l'ombra del sole retrocede di 10 gradini, 2 R 21-11. Alla morte di Gesù si fecero tenebre su tutto il paese della Palestina per 3 ore, MT 27-45, perché il sole si oscurò, LC 23 e Dio mantiene le promesse buone, 21, 43-45. Questi versetti vanno letti. Lo scrittore considera come Dio abbia mantenuto tutte le buone parole che aveva promesso. Poi bisogna passare a leggere il punto seguente. F. Dio mantiene tutte le promesse. 23, 14-16. Giosuè ricorda al popolo che come Dio ha mantenuto le buone parole che aveva promesso, così manterrà anche le minacce fatte a loro riguardo. Infatti la fedeltà di Dio si manifesta nel bene e nel male. G. L'ultimo discorso di Giosuè. Prima di morire, Giosuè dà la sua testimonianza al popolo, punto quanto a me e alla casa mia serviremo l'Eterno, e invita il popolo a servire solo Dio togliendo gli dei stranieri che avevano fra di loro. Evidentemente il popolo amava l'Eterno, ma non si era distaccato del tutto dagli dei delle altre nazioni. Questo fatto fa da sfondo agli avvenimenti che succederanno nel libro seguente, il libro dei Giudici. 1. Il libro di Giosuè inizia con l'entrata del popolo di Israele nella terra promessa. 2. Il contenuto del libro parla delle prime battaglie degli israeliti nella terra promessa. 3. Il libro termina con la morte di Giosuè. Questo secondo esercizio ha il vantaggio di dimostrare come gli israeliti ricordavano bene gli avvenimenti del loro popolo, poiché, come si può notare, è Giosuè che parla. Testo di lettura Giosuè 24:1-2. Famiglia di Abramo. Versetto 3. Chiamata di Abramo e Isacco. Isacco e Giacobbe. 25:50. Versetto 5 a 7. Versetto 8-10. Balak e Balaam. 22:24. Entrata in Canaan. D-O-M-A-N-D-E-S-U-G-I-O-S-U-E. 1. Quale periodo della storia di Israele copre questo libro? 2. Come avvenne il passaggio del Giordano? 3. Dove fece rizzare Giosuè i due cumuli di 12 pietre e a quale scopo? 4. Perché Israele fu sconfitto ad Ai? 5. Quale fatto straordinario, descritto nel capitolo 10, compie Dio per Giosuè? G-I-U-D-I-C-I. Il libro prende il titolo dai personaggi che caratterizzano il periodo storico che vede la conquista della terra promessa da parte di Israele. E, costituito da un racconto di grandi imprese oggetto di considerazione anche da parte della letteratura e della cinematografia, il libro copre il periodo che passa dalla morte di Giosuè fino a poco prima della nascita di Samuele. In pratica vengono narrati i primi 300 anni del popolo di Israele nella terra promessa. Il libro dei Giudici si può dividere in 3 parti. 1. Capitolo 1 fino a 2. 5. Viene narrata la conquista incompleta di Canaan. 2. Capitolo 2. 6 fino al 16. Narrano delle prodezze dei Giudici. A. I Giudici. In questo libro sono ricordati 12 liberatori di Israele, chiamati Giudici. Essi erano uomini, o donne, come Deborah, che liberavano il popolo di Israele dall'oppressione dei popoli stranieri. Gli ultimi giudici li troveremo nel libro di 1 Samuele, Eli e Samuele. I giudici più ricordati generalmente sono Deborah, Jefte, Gedeone, Sansone. B. La situazione morale. Occorre leggere il brano 2, 6-19. Esso costituisce l'introduzione che spiega la situazione morale del popolo di Israele al tempo dei giudici. L'insegnamento didattico di questo brano è che l'abbandono dell'Eterno ha come risultato la servitù e il giudizio, mentre il pentimento porta alla liberazione ed al ristabilimento. C. Prima elementare disubbidienza. Il primo capitolo di questo libro ci presenta il popolo alla conquista della terra di Canaan e l'autore sacro rileva per 6 volte 2:1:2:7:2:9:3:0:3:1:3:3 che le tribù vittoriose non cacciarono gli abitanti del paese, ma li facevano schiavi. Il popolo di Israele non ubbidì totalmente alla volontà di Dio, che era quella di sterminare quelle nazioni, e più tardi ne portò le conseguenze. D. Prima lezione spirituale. Il popolo di Israele non ubbidì totalmente alla volontà di Dio ed egli colse l'occasione per mettere alla prova il suo popolo. I loro dei sarebbero stati una continua insidia alla loro fede. 2:1:5. Quante insidie si hanno nella vita con delle amicizie pericolose, con letture e programmi televisivi? Non edificanti. Il tempo dei giudici è un'epoca crudele e barbara. La lettura di questo libro mette in evidenza che in quel periodo regnava l'anarchia perché in quel tempo non c'era re in Israele. Ognuno faceva quello che gli pareva meglio. 17:6, 21:25. La nazione cadeva spesso nell'anarchia, per cui Dio era costretto ad assoggettare il popolo a potenze straniere. 1. In questo libro vengono narrati i primi 300 anni del popolo di Israele nella terra promessa. DOMANDESUGIUDICI. 1. Chi sono i giudici? 2. Qual era la situazione morale del popolo in questo periodo? 3. Fai un elenco dei 12 giudici. 4. Che cosa facevano gli israeliti ogni volta prima che Dio li liberasse? 5. Come fece Gedeone a vincere i Madianiti? R.U.T.H. Il titolo prende il nome dalla protagonista del libro. Lo scopo dell'autore è quello di raccontare un intervento provvidenziale di Dio nella vita di una moabita che adora l'Eterno e diviene antenata di Davide. All'epoca dei giudici. Questo libro è un racconto di 4 capitoli e una suddivisione diventa inutile. A. Lo scopo dell'autore. Lo scopo dell'autore è duplice. 1. Innanzitutto, vuole evidenziare che anche il forestiero è amato da Dio, le 19:33-34. 2. Avendo Davide per antenati dei pagani, Dio salva non solo gli ebrei ma anche i gentili. B. Il premio di Ruth. In Ebrei 11:6 è scritto che Dio premia coloro che lo cercano, e questo racconto risalta molto bene questa verità. Ruth non ha scelto il Dio di Israele perché non sapeva cosa fare e neppure perché sperava di averne una ricompensa e il Signore, che è ricco in misericordia, l'ha premiata facendola diventare la bisnonna di Davide. C. Il marito di Ruth, Boaz. Questa storia d'amore si comprende meglio se si considera che Boaz era il figlio di Rad, la prostituta che salvò le spie di Gerico, MT 1:5. Molto probabilmente nessuna onorevole vergine, discendente di Israele, avrebbe sposato Boaz, come del resto nessun bravo israelita avrebbe sposato Ruth, una pagana. Così due persone scartate e additate dalla società furono premiate per la loro fede. 1. Il libro di Ruth narra la storia di una moabita che diventa antenata di Davide. Facciamo ora un ripasso dalla Genesi, servendoci anche dell'esercizio di Ebrei 11. DOMANDESURUTH. 1. In quale periodo si svolge questa storia? 2. A quale popolo appartiene Ruth? 3. Come si chiama la suocera di Ruth? 4. Cosa insegna questa storia? Perché si trova nella Bibbia? Testo di lettura Ebrei 11:1-32. Periodo dalla creazione a Samuele. Creazione, offerta di Abele, rapimento di Enoch, Noè e l'arca. Abramo, Isacco, Giacobbe. Sara partorisce Isacco, offerta di Isacco. Isacco benedice i figli. Morte di Giacobbe, morte di Giuseppe, nascita di Mosè, versetto 9-10, versetto 17-19. Mosè vive nel deserto, celebrazione della Pasqua, alcuni giudici. 5-6. Davide, Samuele. Periodo, da Mosè ai giudici. Versetto 6-12. Traversata del Mar Rosso. 5-15. Versetto 13-15. Mormorii del popolo. Versetto 16-18. Datan e Abiran. Versetto 19-23. Versetto 28-31. Balaam. Il flagello fermato. Versetto 32-33. Peccato di Mosè. Versetto 34-46. Inizio idolatria del popolo. 1. Samuele. Il titolo viene dato dal nome dell'ultimo giudice di Israele. Concettualmente lo si può considerare la continuazione del libro dei giudici. L'argomento dominante è quello relativo all'inizio del periodo dei re nella storia di Israele. Storicamente il testo si occupa degli avvenimenti che vanno dalla nascita di Samuele alla morte di Saul. 1. Cap. 1 a 7. Narrano la vita di Samuele. 2. Cap. 8-15. Narrano avvenimenti relativi al regno di Saul. 3. Cap. 16-31. Narrano avvenimenti relativi alla vita di Davide. A. Samuele. Il nome Samuele significa esaudito da Dio. Infatti Samuele rappresenta l'esaudimento delle richieste che Anna aveva fatto a Dio. Per questo motivo essa decide di consacrare l'unico figlio. B. Israele chiede un re. Cat. 8. Il vero peccato di Israele non fu quello di richiedere un re, ma quello di volere attraverso questa richiesta rigettare l'autorità del suo Dio. Notiamo la duplice peccaminosità di questo atto. Nascondere sotto false spoglie un desiderio malvagio. Come Israele voleva essere simile agli altri popoli, così ancora oggi questa è la tentazione più forte del credente. C. La fretta. 13:9-12. Saul doveva aspettare Samuele, ma l'impazienza gli fece fare un gesto inconsulto. La parola di Dio ci esorta molte volte a muoverci con prudenza. PR 19:2, GB 35:14, SL 37:7 e 34. D. L'orgoglio. 15:18-23. Saul riteneva più giusto il suo punto di vista che quello di Dio. Quante volte davanti ad un chiaro comandamento di Dio continuiamo a fare di testa nostra? Il peccato che forse ci turba di meno è proprio quello di camminare secondo i nostri pensieri. Confis 65:2, PR 3:5, GR 18:12. E la fede di Davide, Capi 17. Davide vinse Golia non per forza, ma per fede. Perché Davide aveva una fede che non avevano gli altri israeliti? La risposta è al versetto 37. Davide non aveva dimenticato ciò che Dio aveva fatto per lui. Conf. De 8:11, SL 103, 2, SL 119, 16, 83, 93, 109, 141. Usiamo la fede che abbiamo se vogliamo aumentarla. F. La volontà di Dio, 23, 7. Saul riteneva che rientrasse nella volontà di Dio uccidere Davide, mentre questi, nella stessa occasione, ebbe un santo timore, 24:5 e 26:8. Non dimentichiamo che la volontà di Dio non può mai essere espressa nel peccato, nelle cose ingiuste a danno del prossimo. Una caratteristica fondamentale di Dio è quella di essere santo, e tutto ciò che non è santo deve essere rifiutato. 1. Il libro inizia con la nascita di Samuele e termina con la morte di Saul. 2. Gli avvenimenti principali sono A. L'elezione di Saul come re e il suo rigetto da parte di Dio. B. L'elezione di Davide come re e la sua continua fuga davanti a Saul. Periodo da Mosè a Davide. Versetto 13-14. Versetto 15-16. Versetto 32-33. Versetto 34-53. Versetto 34-53. Versetto 65-72. Le 10 piaghe e la roccia di Horeb. 7-12-13-15. 2. Cosa significa il nome Samuele? 3. Quali furono i primi due peccati di Saul come re? 4. Quale sentenza fu data a Saul a causa del suo peccato? 5. Come fece Davide a sconfiggere il gigante Golia? 6. Perché Davide non uccise Saul quando ne ebbe l'occasione? 2. Samuele. Il titolo indica chiaramente la continuazione del precedente libro di Samuele. Questo libro narra in maniera dettagliata il sorgere e il consolidamento del regno di Davide. Il libro abbraccia il tempo che va dalla morte di Saul al censimento ordinato da Davide poco prima della sua morte. Cap. 1:10 narrano l'espansione e il consolidamento del regno di Davide. Cap. 11:18 narrano delle lotte, delle ribellioni e dei peccati in seno alla famiglia di Davide. Cap. 19:24 narrano del ritorno di Davide come re, il quale continua a regnare serenamente. Davide diventa re. Dopo la morte di Saul e di suo figlio Jonathan, Davide si reca a Hebron, dove viene proclamato re della tribù di Giuda per 7 anni. Capitolo 2. Successivamente, capitolo 5, diviene re di tutto Israele, conquistando Gerusalemme. Rimarrà re di tutte e 12 le tribù fino alla sua morte, cioè per 33. In tutto regnerà per 40 anni. B. L'adulterio di Davide. Cap. 11. L'episodio dell'adulterio e del conseguente omicidio testimonia come anche un grande uomo di Dio possa commettere certi peccati. E, importante per evitare in futuro gravi sbandamenti spirituali, che noi ricordiamo che i giusti e i savi e le loro opere sono nelle mani di Dio. L'uomo non sa neppure se amerà o se odierà. Tutto è possibile. Eci 9:1. Non deve sfuggire il fatto che il peccato di Davide produsse notevoli ripercussioni negative nella sua famiglia e più tardi anche un suo figlio si macchiò di un peccato sessuale simile al padre. C. Il censimento di Davide. Cap. 24. La legge data da Dio proibiva al re di fare il censimento del popolo perché egli avrebbe confidato nell'uomo e non in Dio. La scrittura narra questo peccato di Davide perché fu in quella occasione che egli decise dove costruire il tempio. Conf. 1 Cr. 21, 28-30. Questo fatto ci porta a constatare che, per coloro che amano Dio, tutto coopera al bene. Nella vita cristiana anche la sconfitta torna utile. Edifica. Il diavolo è per sempre virtualmente perdente. Sta a noi realizzare la vittoria. I cristiani sono come quelle squadre di calcio che hanno vinto il campionato prima che questo termini. Una sconfitta non preclude la vittoria e la gloria. 1 Cor. 2:12-14. Non c'è peccato troppo grande che possa impedire a Dio di benedire i suoi figlioli. Che dono essere dei figli di Dio. 1. Il libro inizia con il racconto della morte di Saul e termina poco prima della morte di Davide. 2. Questo libro racconta i momenti più significativi della vita di Davide, quali l'incoronamento come re, l'adulterio, l'incesto di Amnon, la ribellione di Absalom, il censimento. Domandisamuele. 1. Quali grandi eventi segnano l'inizio e la fine di questo libro? 2. Per quanti anni regnò Davide su Giuda e quanti anni su Israele? 3. Elenca alcuni eventi più significativi nella vita di Davide. 4. Quale fu la catena di peccati che commise Davide per sposare Bat-Sheba? 5. Perché Davide non fu condannato da Dio per i peccati commessi? 6. Scrivi alcuni nomi dei figli di Davide. 1 Re. Il titolo richiama l'argomento del libro che narra gli episodi avvenuti sotto i vari regni di Israele. Il libro racconta gli avvenimenti che portarono alla divisione del regno di Israele, dall'incoronazione di Salomone al regno di Giosafat. Cap. 1:11. Narrano alcuni avvenimenti del regno di Salomone. Cap. 12:22. Narrano alcuni avvenimenti del regno del nord e del sud. Culmine e declino di Israele. Il dodicesimo capitolo di questo libro va ricordato in modo particolare. Da Genesi capitolo 12 a 1 Re capitolo 12. Notare l'accostamento dei due capitoli. Israele, attraverso varie vicissitudini, può considerarsi un popolo in crescita. Da quest'ultimo si assiste al suo declino. B. La figura di Davide come padre. 1. 5 a 6. Adonia, fratello maggiore di Salomone, voleva essere re anche se Dio aveva scelto Salomone. Molto probabilmente era un figlio capriccioso e viziato perché leggiamo che Davide non gli aveva mai rimproverato nulla. Un buon padre deve rimproverare e punire i suoi figli. E se Davide ha mancato in questo, ciò significa che anche un grande uomo di Dio non è perfetto in tutte le cose. C. Il sogno di Salomone. 3:3-15. Di fronte ad una specifica e desiderabile domanda di Dio, Salomone risponde di desiderare più di ogni altra cosa la sapienza. Considerazione. Qual è la richiesta intima del tuo cuore? D. Date da ricordare. 6:1-38, 7:1. 480 anni dopo l'uscita dall'Egitto, Salomone si accinge alla costruzione del Tempio, impiegando 7 anni per completarlo mentre ne occorrono 13 per completare la propria abitazione. E la regina di Sheba, 10:1-10. La regina di Sheba fu premiata perché ricercava sinceramente la verità. Essa non ha disdegnato compiere un cammino così lungo, pur di poter ascoltare la sapienza di Salomone, non sentendosi appagata della sua regale condizione. F. L'infedeltà di Salomone, 11:1-13. La sapienza di Salomone non gli ha impedito di trasgredire un comandamento molto chiaro della legge di Mosè, quello cioè di non sposare donne che avessero avuto una fede diversa. In quale modo noi cerchiamo di rimanere integri in questo campo? G. La scissione di Israele. Cat. 12. Al capitolo 12 si racconta della scissione del regno, risultando 1. Il regno del nord composto da 10 tribù, chiamato anche regno di Israele. 2. Il regno del sud, composto dalle tribù di Giuda e Beniamino, chiamato anche regno di Giuda. H. La storia di Elia. Elia è stato certamente uno dei maggiori profeti, ed è bene ricordare che la sua storia la troviamo scritta in questo libro dal capitolo 17 in poi. Egli visse al tempo di uno dei re di Israele più malvagi, Acab. Testo di lettura, Atti 7:1-53. Periodo, da Abramo a Salomone. Versetto 2 a 5. Versetto 6 a 7. Versetto 9-16. Versetto 20-29. Versetto 30-44. Dio chiama Abramo. 11:12. Dio parla ad Abramo. Genesi. Storia di Abramo, Isacco, Giacobbe. Genesi. 37-39. Primi 80 anni della vita di Mosè. Ultimi 40 anni della vita di Mosè. S. Le conquista della terra di Canaan. G. S. G. C. Davide chiede di costruire il Tempio. 2 Samuele. Salomone costruisce il Tempio. 1 Re. Versetto 48-53. Stefano si rivolge agli ascoltatori. Atti. D-O-M-A-N-D-E-S-U 1-R-E-1. Quale grande avvenimento divide questo libro in due parti? 2. Cosa chiede Salomone a Dio nel suo sogno? 3. Quale grande costruzione compie il re Salomone e quanti anni impiega? 4. Quale evidente peccato compie Salomone e quali sono le conseguenze? 5. Di quale grande profeta si parla dal capitolo 17 in poi e con quale re malvagio ebbe a che fare? 6. Scrivi il nome di alcuni re di Israele e di Giuda di cui parla questo libro. 7. Dopo la scissione del regno di Israele si formarono due regni. Scrivi il nome dei due regni e da quali tribù era formato ognuno. 2 R e E. Il medesimo del libro precedente di cui si può dire costituisca la seconda parte o continuazione. All'inizio viene narrata la storia parallela dei due regni divisi di Giuda e di Israele, poi solo quella di Giuda. Il periodo comprende dal regno di Acazia fino alla deportazione di Giuda. Il libro dei re si può dividere in due parti. Dal capitolo 1 fino al 17 vi è la storia parallela dei due regni di Israele e di Giuda. Dal capitolo 18 alla fine gli succede, nel compito di profeta, il suo servitore e discepolo Eliseo, la cui vita viene narrata nei primi 13 capitoli. B. La deportazione del regno del Nord Capt. 17. Nell'anno 721 AC il popolo di Israele viene deportato in Assiria e ha così termine il regno del Nord. Al versetto 41 leggiamo che gli israeliti servivano l'Eterno, ma al tempo stesso servivano anche i loro idoli. Il Signore disapprova questo metodo perché bisogna adorare e servire solo Lui. C. Caratteristiche dei due regni. Il regno di Israele, o regno del Nord, ebbe in tutto 19 re e 9 dinastie. Terminò nel 721 per mano degli Assiri. Il regno di Giuda, o regno del Sud, ebbe in tutto 19 re e una sola dinastia, quella di Davide. Terminò nel 587 ad opera dei babilonesi. D-O-M-A-N-D-E-S-U-2-R-E. 1. Quale periodo storico comprende questo libro? 2. Il libro è stato diviso in due parti. Scrivi quali e perché. 3. Di quale profeti si parla nei primi capitoli? 4. Quante dinastie e re ebbero i due regni? 5. Quali rispettivi popoli mandarono in cattività il regno del Nord e il regno del Sud? 1-CRONACHE. Il titolo significa libro degli affari o anche dei fatti del giorno, annali. E stato chiamato anche insieme a due cronache, paralipomeni, che significa le cose annesse, in quanto l'autore avrebbe raccolto in questi libri ciò che era stato annesso nei due libri dei re. Si narra la storia della dinastia di Davide, detentrice della promessa divina. Va da Adamo sino alla morte del re Davide. Questo libro può essere diviso in due parti. Cap. 1 a 9, genealogia relativa alla storia del popolo di Israele sino all'inizio del regno di Davide. Cap. 10-29, storia del re Davide. A. Il periodo storico dei libri delle cronache. I due libri delle cronache, iniziando da Adamo per terminare con l'editto di Ciro, coprono il più lungo periodo di qualsiasi altro libro della Bibbia. B. La differenza tra i libri delle cronache e i libri dei re. I libri delle cronache, anche se possono sembrare una semplice ripetizione delle cose accadute e dei fatti narrati nei libri dei re, in realtà contengono molta differenza sia nel contenuto che nel modo di raccontare gli avvenimenti. 1 Re Cronache. Narra la storia dei due regni. Narra solo la storia della tribù di Giuda. Il racconto è cronologico. L'autore si sofferma sugli avvenimenti. Il libro dei re considera la storia dal punto di vista dei profeti. Il libro delle cronache considera gli avvenimenti dal punto di vista dei sacerdoti. C. La conquista di Gerusalemme. Davide conquista Gerusalemme solo dopo la morte di Saul. In quell'occasione Joab, suo cugino, dimostrò del valore e divenne capo dell'esercito di Davide. D-O-M-A-N-D-E-S-U-1-C-R-O-N-A-C-H-E. 1. Perché questo libro porta questo nome? 2. Quale argomento principale tratta questo libro? 3. Quale periodo storico copre il libro delle cronache? 4. Quale differenza passa tra questo libro e i libri dei re? 2-C-R-O-N-A-C-H-E. Il titolo stesso ci dice che questo libro non è altro che il seguito del libro precedente. Oltre la ragione esposta in 1 Cronache, tratta quanto già scritto in 1 e 2 Re, omettendo tutto ciò che riguarda le 10 tribù distaccatesi del regno, dall'inizio del regno di Salomone all'editto di Ciro. Si può dividere in due parti. Cap. 1 a 9. Storia del re Salomone. Cap. 10-36. Storia dei re di Giuda. Essendo questo libro una ripetizione di 1 e 2 re, non vi sono particolari nuovi. Si può ricordare, anche se non è strettamente un fatto storico, il versetto 14 del capitolo 7 dove è scritto: Punto è se il mio popolo, sul quale ho invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i peccati e guarirò il suo paese. È bello e confortante sapere che il Signore è sempre pronto a farci del bene, a perdonare. Egli non ci chiede di fare delle opere, delle cose impossibili. Ma occorre riconoscere di aver sbagliato, di metterci nella posizione giusta, cioè essere umili, invocarlo e vivere secondo la sua volontà. Questa è la via di Dio per essere benedetti e gioiosi in Lui. A questo punto, occorre fare un piccolo ripasso di tutto quello che si è imparato. Facciamo una verifica, se abbiamo capito i passaggi fondamentali che hanno caratterizzato la storia di Israele come. 1. Come e perché si forma il popolo di Israele? 2. Come e perché Israele chiede un re? 3. Come e perché Israele si divide? 4. Come e perché Israele va in cattività? DOMANDESU 2CRONACHE 1. Quale periodo storico copre questo libro? 2. Come abbiamo suddiviso questo libro? 3. Quale lezione spirituale abbiamo nel capitolo 7 al versetto 14? ILIBRIDOPOLESILIO Esdra Neemia Ester. Abbiamo considerato che il popolo di Israele da Abramo il capostipite in poi è andato sempre più crescendo fino a raggiungere l'apogeo al tempo di Salomone. Dopo la morte di Salomone assistiamo ad un lento ma inesorabile declino spirituale, il quale costringe Dio ad allontanare il suo popolo dalla terra promessa, prima con la deportazione del regno del nord nel 721, poi definitivamente nel 586 con la deportazione del regno di Giuda. Ma il Dio, che è misericordioso, aveva stabilito che l'esilio avrebbe avuto una durata di 70 anni dopo, i quali giudei sarebbero tornati in Palestina. A testimonianza di questo periodo, il Dio ha ispirato alcuni autori a scrivere tre libri che noi troviamo alla fine dei libri storici. Questi tre libri formano la parte finale della storia ebraica nell'Antico Testamento. Essi narrano il ritorno degli ebrei da Babilonia, la ricostruzione del Tempio e di Gerusalemme, ed il riordinamento della vita nazionale del popolo ebreo nella propria patria, comprendendo un periodo di circa 100 anni, 536-432. Questo periodo di 100 anni si può suddividere in due fasi. 1. 20 anni, 536-516, durante i quali, sotto Zorobabele quale governatore e Giosuè sacerdote, venne ricostruito il Tempio. 2. 25 anni, 457-432, durante i quali con Neemia, governatore, ed Esdra, sacerdote, venne ricostruito il muro e Gerusalemme riprese la sua condizione di città fortificata. Il libro di Esdra fornisce una narrazione di ambedue i periodi. Il libro di Neemia fornisce la narrazione del secondo periodo. Il libro di Ester si inserisce tra i due periodi. L'impero persiano. Mentre la politica dei re di Assiria e di Babilonia era stata quella di deportare i popoli vinti, trascinandoli lontano dal loro paese e disperdendoli in altre terre, quella dei re persiani, completamente opposta, fu di rimpatriare quei popoli, rimandandoli alla loro patria. L'impero persiano durò 200 anni, 536-331, ed alcuni suoi re furono Ciro 538-529, che conquistò Babilonia e permise il ritorno in patria dei giudei. Dario I, colui che autorizzò il Artaserse I, longimano, 465-425, autorizzò Neemia, suo coppiere, a ricostruire Gerusalemme. Date da ricordare. Israele era stato deportato in Assiria nel 721 AC. Giuda era stato deportato in Babilonia nel 606 al 586 AC. Il rientro fu concesso dalla Persia nel 536. Quali sono i libri della Bibbia che narrano la storia di Israele dopo la cattività? 2. Che spazio di tempo coprono tali libri? 3. Come si può dividere tale periodo? Specifica in che modo? 4. Qual è la caratteristica dell'impero persiano rispetto agli assiri e babilonesi? 5. Quanto durò l'impero persiano? 6. Cita alcuni nomi di re persiani. 7. In quale anno i persiani concedono agli israeliti di tornare in Palestina? ESDRA. Il titolo prende il nome da colui che si pensa ne sia l'autore. Questo libro tratta tre importanti avvenimenti. 1. Il ritorno dalla cattività del popolo di Israele. 2. La ricostruzione del Tempio. 3. Il viaggio di Esdra a Gerusalemme. Il periodo storico del libro inizia con l'editto di Ciro subito dopo i 70 anni e termina con il ritorno di Esdra. 1. Cap. 1 a 2. Ritorno dalla cattività. 2. Cap. Crea 6. Costruzione del Tempio. 3. Cap. 7-10. Ritorno e riordinamento morale di Esdra. 1. Date da ricordare. Il ritorno di Esdra avviene circa 80 anni dal ritorno degli ebrei e 13 anni prima dell'arrivo di Neemia. 2. La costruzione del Tempio. Il Tempio viene ricostruito nello spazio di 20 anni, perché i popoli vicini cominciarono ad opporsi con inganni e intrighi. I giudei non avrebbero ripreso i lavori se non ci fosse stato l'aiuto dei profeti. Ageo e Zaccaria. 3. I matrimoni misti. Viene ricordato in questo libro il peccato che Dio aveva ripetutamente vietato di commettere e che aveva condotto gli ebrei all'idolatria provocando la loro deportazione in matrimoni con persone pagane. Dopo l'esperienza del popolo di Israele, occorre finché si è giovani mettersi in cuore di non commettere un tale errore. 4. La storia di Esther, che troveremo narrata nel libro che porta tale nome. 5. Il valore del Tempio. Esso era il centro della vita religiosa, e senza di esso nulla aveva valore. Così, anche noi, quando siamo in crisi e desideriamo uscirne fuori, dobbiamo preoccuparci del nostro rapporto con Dio. Rapporto questo, fondamentale e vitale, senza il quale ogni espressione nella vita cristiana non ha valore. DOMANDESUESDRA. 1. Chi era Esdra? 2. Quali argomenti principali tratta questo libro? 3. Quale periodo storico copre il libro di Esdra? 4. Dopo quanti anni arriva Esdra a Gerusalemme dai primi giudei? 5. In quale spazio di tempo viene costruito il Tempio? 6. Qual è il peccato così pericoloso per i giovani che viene ricordato in questo libro? N-E-E-M-I-A. Il titolo del libro prende il nome dal personaggio principale narrato nel libro. La ricostruzione delle mura di Gerusalemme. Dall'arrivo di Neemia al ritorno di quest'ultimo 10 anni dopo. Il libro si può dividere in due parti. 1. Cap. 1 a 6. Storia della costruzione delle mura di Gerusalemme. 2. Cap. 7-13. Vari avvenimenti. 1. Neemia, uomo di preghiera. Il primo impulso che Neemia aveva in ogni circostanza era quello di pregare. 1. 4 a 2, 4 a 4, 4 a 6, 9 e 14. Prima di avanzare la sua richiesta al re, trascorse 4 mesi di preghiera. 1. 1 a 2. 1. Quando abbiamo in cuore delle cose importanti, preghiamo con perseveranza. 2. La costruzione delle mura. Per costruire le mura, Neemia e gli altri personaggi citati nel libro completarono l'opera in 52 giorni. Gerusalemme, a 142 anni dalla sua distruzione avvenuta nel 586, era nuovamente una città fortificata. 3. Un po' di calcoli. Nel 536 ritornano gli ebrei da Babilonia. Nel 516 il Tempio è completato. Nel 457 Esdra arriva a Gerusalemme. Nel 444 Neemia arriva a Gerusalemme. 4. Il valore della parola di Dio. Neemia arrivò a Gerusalemme 13 anni. Assieme riunirono il popolo per organizzare la vita nazionale. Per 7 giorni, dal mattino a mezzogiorno, veniva letta la legge di Dio distintamente. E ne fu spiegato il significato affinché il popolo comprendesse pienamente la parola che udiva. Questa lettura pubblica portò una grande ondata di pentimento tra il popolo e un gran risveglio. Ecco perché bisogna leggere, credere, predicare con chiarezza e vivere la parola di Dio, solo essa. può creare, risvegliare e tenere viva la fede del credente. DOMANDESUNEEMIA. 1. Chi era Neemia? 2. Quale periodo storico copre questo libro? 3. Qual è l'argomento principale di questo libro? 4. Quanto tempo impiegarono gli israeliti a costruire le mura? 5. Cosa è che ha prodotto un risveglio tra il popolo di Israele? Testo di lettura. Neemia, capitolo 9. Periodo da Abramo alla cattività. 12:22. 9:15. Uscita dall'Egitto 1:0. 1:20. I 10 esploratori. La nuvola e la colonna di fuoco. La manna e l'acqua. Prime vittorie sui re. 23:25. Prime vittorie in Canaan. 26:29. Inizio disubbidienza di Israele. 30:37. Cattività del popolo di Israele. 1 e 2 re. ESTER. Il titolo prende il nome dal personaggio principale del libro. I giudei salvati dallo sterminio. Il libro tratta un episodio della vita di uno. Un po' di calcoli. Il tempio viene ricostruito negli anni 536-516. Ester diviene regina di Persia nel 478. Ester salva i giudei dal massacro nel 473. Esdra arriva a Gerusalemme nel 457. Neemia ricostruisce le mura nel 444. Ester quindi regna circa 40 anni dopo la ricostruzione del Tempio e circa 30 anni prima della 2, il matrimonio di Ester. Assuero morì 13. Senza dubbio, Ester visse ancora a lungo durante il regno del figliastro Artaserse, esercitando probabilmente come regina madre una notevole influenza ai giorni di Esdra e Neemia, aiutata certamente anche da Mardocheo che divenne primo ministro. 3. La festa del Purim. Il libro di Ester non è soltanto una narrazione con una conclusione felice, ma tratta di un importante avvenimento storico, la liberazione del popolo ebraico dall'annientamento nei giorni successivi dalla cattività di Babilonia. Fu questa l'origine della festa del Purim che i giudei osservano tuttora. 4. Una curiosità. In questo libro non viene mai menzionato il nome di Dio. 5. La morale del libro. Abbiamo considerato che il libro di Ester narra come il popolo di Israele sia scampato allo sterminio. E la morale che possiamo trarre da questa storia con la vicenda di Naaman è che chi scava una fossa vi cadrà dentro. PR 26:27. Il male prima o poi si ritorce su chi lo fa, come scrisse Paolo ai credenti di Colosse. Chi fa torto riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto, e non ci sono riguardi personali. Co 3:25. DOMANDESUESTER. 1. Chi era Ester? 2. Che argomento principale tratta questo libro? 3. In quale momento storico si svolge la storia di questo libro? 4. A quale festa giudaica diede origine la storia di Ester? IPROFETIEILORLIBRI. Come i libri storici da Genesi fino a Ester costituiscono la storia della nascita e della caduta della nazione del popolo ebraico, così i profeti e i loro libri, da Isaia fino a Malachia, appartengono al periodo della caduta della nazione. L'intero periodo dei profeti copre circa 400 anni, 800-400 circa. La ragione principale perché Dio suscitò i profeti fu l'apostasia del suo popolo, avvenuta in modo graduale dopo la morte di Salomone. La missione e il messaggio dei profeti era quindi quello di 1. Richiamare il popolo al ravvedimento dalla sua idolatria. 2. Annunziare la deportazione dei giudei come popolo. 3. Annunziare che vi sarebbe stato un residuo fedele a Dio. 4. Da questo rimanente sarebbe sorto una persona che porterà Israele e le nazioni a Dio. I libri profetici sono 17, pur essendovi 16 profeti, perché Geremia scrisse due libri, quello recante il suo nome e le Lamentazioni. Questi libri vengono ordinariamente divisi in profeti maggiori e in profeti minori. Questa classificazione è basata sulla grandezza dei libri. Infatti, uno qualunque dei tre libri di Isaia, Geremia e Ezechiele, è da solo più lungo di tutti i 12 libri minori messi assieme. Il momento storico dei profeti. Come abbiamo notato, i profeti vissero e predicarono nell'arco di tempo di 400 anni, cioè dopo la morte di Salomone fino dopo al ritorno della cattività. Spesso è problematico ricordare il momento storico del ministero dei profeti, e per facilitare questo è sufficiente dividere il periodo profetico in tre parti nel seguente modo. Profeti che predicarono dopo l'esilio, cioè dal 536 al 400, Aggeo, Zaccaria, Malachia, gli ultimi tre libri dell'Antico Testamento. Profeti che predicarono durante l'esilio, durato 70 anni, Ezechiele e Daniele, gli ultimi due libri dei profeti maggiori. Profeti che predicarono prima dell'esilio, tutti gli altri, cioè 11 profeti. Il messaggio dei profeti. Non tutti i profeti ebbero lo stesso messaggio con gli stessi destinatari, e per chiarezza, anche qui, schematizziamo nel seguente modo. A Giuda, Gioele, Isaia, Michea, Geremia, Abacuc, Sofonia, Aggeo, Zaccaria, Malachia. A Israele, Amos, Osea. A Ninive, Giona, Nahum. A Edom, Abdia. A Babilonia, Daniele. Ai deportati in Babilonia, Ezechiele. Elenco cronologico dei profeti. A volte è utile avere con uno sguardo l'idea del periodo storico di ogni profeta, e per facilitare questo qui di seguito, presentiamo il seguente schema, le cui date non sono da ritenersi assolute. Affinché anche questo periodo possa restare agevolmente impresso nella mente, sarà diviso in quattro parti. 1. Periodo persiano. 2. Periodo greco. 3. Periodo dell'indipendenza. 4. Periodo romano. 1. Periodo persiano. 430-332 AC. Il dominio persiano ebbe inizio ancora nelle pagine dell'Antico Testamento. Fu appunto il re Ciro di Persia che invitò coloro che erano deportati in Babilonia da Nabucodonosor a far ritorno in patria, sotto la guida di Zorobabele, e più tardi con Esdra e Neemia. Il dominio persiano durò ancora per circa 100 anni, cioè dal 430 al 332, e come abbiamo già notato esso fu prevalentemente mite e tollerante. Fu in questo periodo che il sommo sacerdote cominciò ad avere nelle proprie mani la cura degli interessi civili, oltre a quelli religiosi. Inoltre il nome Giudei venne attribuito a tutti i figlioli di Israele indistintamente, non più ai soli discendenti della tribù di Giuda. Le sinagoghe, cioè i luoghi di riunione e di preghiera in cui si leggeva e meditava la legge, subirono un importante sviluppo. Il termine scriba, che in origine stava ad indicare ogni specie di scrittore o copista, dai tempi di Esdra in poi passò a designare coloro che, oltre a copiare, custodivano, studiavano ed esponevano la legge. Forse il fatto più notevole è che il popolo era guarito completamente per sempre, ma la guarigione era così totale che un nuovo pericolo si presentò all'orizzonte. Invece di uniformarsi ai popoli circonvicini, sorse nel popolo ebreo un profondo disprezzo per essi. Tutto questo lo vedremo meglio più avanti. 2. Periodo greco, 331-167 AC. Fino a questo momento le grandi potenze mondiali erano state quelle asiatiche ed africane, ma da occidente stava per avanzare la potenza greca. Gli inizi della storia greca sono avvolti nel velo del mito, ma si ritiene che essa abbia avuto inizio verso il XII secolo AC, cioè all'epoca dei giudici della Bibbia, quando Alessandro, figlio di Filippo il Macedone, assunse il comando delle armate greche e raggiunse con le sue velocissime conquiste anche la Palestina. Egli mostrò grande comprensione verso gli ebrei, risparmiò Gerusalemme ed offrì immunità ai giudei affinché potessero stabilirsi ad Alessandria. Dopo la sua morte, la Palestina fu soggetta prima alla Siria, per un breve periodo, poi all'Egitto, infine di nuovo alla Siria. In questo periodo godette di una pace relativa rispetto al mondo esterno. In questo periodo è da ricordare l'anno 283. Tolomeo Filadelfo, 285-246, regnava allora in Egitto e questo monarca era favorevole al popolo ebreo. Egli desiderava possedere una collezione completa della letteratura ebraica, non soltanto dei libri delle sacre scritture, ma anche di altri scritti. Questa è l'origine della versione greca che porta il titolo di versione dei 70 dal numero di studiosi giudei che vi si applicarono. Questa è la ragione per cui la versione Vulgata, cioè la traduzione latina eseguita sulla versione dei 70, contiene i libri apocrifi. Anche questo vedremo meglio più avanti. Un'altra data da ricordare è il 163 AC. Antioco Epifane, l'Illustre, un re siriaco che regnò dal 175 al 164, fu feroce nemico degli ebrei e compì decisi e furiosi tentativi per sterminarli ed estinguere la loro religione. L'anno 163 devastò Gerusalemme, profanò il tempio sacrificando una scrofa, vi eresse un altare a Giove, proibì il culto in esso e vietò, con la pena di morte, la circoncisione. Vendette come schiave migliaia di famiglie ebree, distrusse tutte le copie della scrittura che poté trovare facendo massacrare tutti coloro che ne venivano trovati in possesso. Sotto la pressione della terribile persecuzione e davanti all'ordine di distruggere i libri sacri, i sacerdoti stabilirono una volta tanto l'elenco dei libri sacri riconosciuti tali, escludendo gli apocrifi. Vedremo più avanti quanti e quali sono, e il significato di tale nome. La persecuzione condusse così gli ebrei a ritornare alla parola di Dio ed a riconoscerne l'autorità assoluta e divina. Questo periodo di persecuzione provocò inoltre la rivolta dei Maccabei, uno degli avvenimenti più eroici della storia. 3. Periodo dell'indipendenza, 167-63 AC. Questo periodo viene chiamato dei Maccabei o Asmoneo. Il sacerdote Mattatia, uomo di grande patriottismo, reso furioso dal tentativo di Antiochio Epifanare di distruggere i giudei e la loro religione, riunì un gruppo di giudei fedeli e levò il vessillo della vittoria. Egli aveva 5 eroici e combattivi figli: Giuda, Jonathan, Simone, Giovanni e Eleazaro. Mattatia morì 166 AC e il comando passò a suo figlio Giuda, il quale, con una serie di vittorie quasi incredibili, respinse il nemico finché nel 165 poté purificare il tempio contaminato e ristabilire i sacrifici giornalieri a Gerusalemme. Questo grande avvenimento fu poi ricordato nella festa annuale della dedicazione, festa che troviamo ricordata in Giovanni 10:22. Dopo di lui regnò suo fratello Jonathan, il quale fu ucciso nel 142. Allora Simone, l'ultimo superstite dei 5 figli di Mattatia, divenne capo, ma venne poi ucciso a tradimento da suo cognato nel 135. Così dall'anno 166 al 135 fu al comando dei giudei la famiglia di Mattatia. IDISCENDENTIDEIMACCABEI. Giovanni Ircano, figlio di Simone, 135-105 AC. Al tempo di questo condottiero due avvenimenti meritano l'attenzione. Il primo è che fu costruito sul monte Gerizim un tempio rivale. Giovanni lo distrusse e questo non fece altro che intensificare il rancore già esistente fra i giudei e i samaritani. Vediamo un accenno di questa verità in Giovanni 4:9. Il secondo è che due partiti si stavano ormai consolidando, i Sadducei e i Farisei. Coloro che favorivano l'ellenismo, cioè introdurre elementi greci nella cultura ebraica, appartenevano soprattutto alla famiglia del sommo sacerdote e dalla classe dei nobili, e ricollegandosi al sacerdote Sadoc presero l'appellativo di Sadducei, cioè figli di Sadoc. Il secondo partito, composto di giudei pi, in ebraico Hasidim, si rinchiuse in un esclusivismo ancora più grande, avendo come prima preoccupazione l'interpretazione della legge. I suoi aderenti presero il nome di farisei, cioè separati. Oltre che esserci la differenza di apertura verso nuove culture, ricordiamo che i Sadducei erano sacerdoti addetti ai riti del Tempio, mentre i farisei erano principalmente scribi che interpretavano le scritture secondo leggi orali che ritenevano antiche quanto la scrittura. Questi due gruppi di persone ebbero una parte importante al tempo di Gesù. Alessandro Ianneo, 104-78. Giovanni Ircano morì nel 105 AC e gli successe il figlio maggiore Aristobulo che dopo un Questo periodo segna il declino della famiglia di Mattatia. Il lungo regno di Alessandro fu un regno crudele, di sete di conquista e di espansione. Il suo territorio comprendeva più di quello che un tempo possedevano le 12 tribù. Esso era continuamente dilaniato da guerre intestine, soprattutto fra farisei e sadducei. Alla fine della feroce guerra civile, si sentì parlare per la prima volta nella storia giudaica di condanna a morte per crocifissione. Mancava poco più di un secolo prima che fosse eretta la croce. La guerra civile e il caos, 78-65 AC. Alessandro Ianneo morì nel 78 AC e per alcuni anni regnò con saggezza sua moglie Alessandra. Essa aveva designato Ircano, il maggiore dei figli, perché fosse sommo sacerdote, ma quando essa morì, il più giovane di questi, Aristobulo, energico ed aggressivo, si assicurò l'aiuto di Antipatro, un idumeo, e si impadronì del trono. In mezzo a queste lotte, la potenza di Roma apparve all'orizzonte. 4. Periodo romano, 63 AC fino al tempo di Cristo. Nell'anno 63 AC, la Palestina venne conquistata dai Romani sotto Pompeo. Antipa, un idumeo, gli idumei erano discendenti di Esaù, venne nominato re della Giudea, a lui successe il figlio Erode, chiamato il Grande, che fu re della Giudea nel periodo 37-3 AC, infatti grande fu nei suoi vizi e nelle sue capacità personali. Durante il suo regno fu odiato dai giudei, ed egli, per ottenere il favore dei giudei, ricostruì il Tempio con una sontuosità che faceva scomparire quella del Tempio di Salomone. L'esistenza di un partito erodiano, di cui si ha sentore nel Nuovo Testamento, dimostra che vi era una parte del popolo che apprezzava e approvava i suoi sforzi. D'altra parte vi era un partito chiamato degli Zeloti. Coloro che vi appartenevano erano ancora più rigidi dei farisei nel non voler pronunciare alcun giuramento e nel voler neppure pagare i tributi al monarca idumeo o a Cesare stesso. Gli ultimi giorni di Erode furono assai tragici. Il suo corpo fu afflitto da una malattia ripugnante e la sua mente fu costantemente tormentata da rimorsi e dal timore. Non c'era da meravigliarsi che quando i magi d'Oriente gli si presentarono domandandogli «Dov'è il re dei giudei che è nato?» e egli ne rimanesse allarmato. La strage degli innocenti a Betlem fu un episodio veramente di secondaria importanza in un regno in cui l'assassinio era stato il mezzo più usato per raggiungere ogni scopo politico. In tale modo, veniamo a chiudere il periodo storico che va da Malachia a Matteo. Siamo arrivati agli ultimi giorni del re Erode, durante i quali avvenne che un decreto uscì da parte di Cesare Augusto perché si facesse un censimento in tutto l'impero. Luca 2:1. E mentre Erode malato finiva i suoi giorni nel palazzo di Gerusalemme, Giuseppe e Maria si recavano dalla Galilea a Betlem, la città di Davide. Dio amava tanto il mondo che stava per mandare il suo figliolo unigenito. 1. Quanto tempo trascorre tra l'ultimo libro dell'Antico Testamento e il primo del Nuovo Testamento? 2. Perché questo periodo possa rimanere nella mente? In quante parti lo abbiamo diviso? Quali? 3. Quando e quanto durò il periodo persiano? 4. Scrivi alcuni avvenimenti importanti durante il periodo persiano. 5. Quando iniziò e quanto durò il periodo greco? 6. Ci sono due dati importanti da ricordare durante il periodo greco. Quali sono e che cosa avvenne? 7. Quando iniziò e quanto durò il periodo dell'indipendenza? 8. Quale importante famiglia giudaica venne alla ribalta durante il periodo dell'indipendenza? Scrivi qualche nome dei componenti di questa famiglia. 9. Quando avvenne per la prima volta la crocifissione come condanna a morte? 10. Quando iniziò la dominazione romana? 11. Chi fu l'imperatore romano che conquistò la Palestina e chi gli successe? ILCANONDLLANTICOTESTAMNTO. La parola canone, che significa letteralmente bastone o canna da misurare, venne impiegata per definire l'elenco dei libri che venivano riconosciuti come parola di Dio, autorevole, ispirata, originale e genuina, ossia la regola di fede, elenco stabilito, o regola dottrinale. Questi libri, o scritture come venivano chiamate da Gesù e dagli Apostoli, erano composte dai 39 libri che formano il nostro Antico Testamento, benché in una sistemazione diversa. Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, i profeti in 8 libri. GSG, CSMR, IS, GREZ, 1-2 profeti minori. I salmi in 11 libri. SLPRG, BRU, la MET, CI, ET, DA, MET, nella MET, CR. La data esatta in cui questo gruppo di libri venne completato e messo a parte definitivamente come parola di Dio rimane oscura, ma la tradizione giudaica vuole che ciò avvenisse al tempo di Esdra, cioè circa 400 anni AC. ILIBRIAPOCRIFI. La parola apocrifi deriva dal greco e significa scritti nascosti o aggiunti. Questo è il nome che viene di solito assegnato ai 14 libri che in alcune Bibbie si trovano tra il Vecchio e il Nuovo Testamento. Essi ebbero origine tra il III ed il I secolo AC, sono per la maggior parte di autore incerto e vennero aggiunti alla versione dei 70, che era una traduzione greca del VT fatta in quel periodo. Essi non erano contenuti nel VT ebraico, ma vennero scritti dopo che le profezie dell'Antico Testamento, gli oracoli e le rivelazioni dirette erano cessate. Gli ebrei non li riconobbero mai come parte del Nuovo Testamento. Essi non vennero riconosciuti dalla Chiesa primitiva come aventi autorità di canone né ispirazione divina. Quando nel II secolo d.C. la Bibbia venne tradotta da Gerolamo 380-405 in latino, il VT venne tradotto non dall'originale ebraico ma dalla versione greca dei 70, e da quest'ultima versione i libri apocrifi vennero trasmessi nella traduzione latina, e di qui nella Vulgata Latina, che divenne la versione corrente nell'Europa occidentale fino al tempo della Riforma. La Chiesa Cattolica allora, nel Concilio di Trento, 1546-1563, tenutosi per frenare il movimento protestante, conferì loro una parvenza di autorità divina, chiamandoli deuterocanonici, nuovo o secondo canone. Per questo essi si possono trovare nelle diverse versioni cattoliche della Bibbia. Per conoscenza diamo qui di seguito i titoli di questi libri. 1 Esdra, 2 Ester, Sapienza di Salomone, Ecclesiastico, Baruch, il Cantico dei Tre Giovinetti, la Storia di Susanna, Bella e il Dragone, Preghiera di Manasse, Primo Libro dei Maccabei, Secondo Libro dei Maccabei, e saggio quindi vedere e riassumere le ragioni di questo rifiuto. 1. I depositari della legge, gli ebrei, li rifiutano almeno per 3 motivi. A. Il contenuto è storicamente e teologicamente inaccettabile. B. La stesura di questi libri era in una lingua diversa dall'ebraico. C. L'epoca di composizione è successiva a quello che loro chiamavano il periodo profetico, cioè il periodo tra Mosè e Artaserse, il marito di Ester. 2. Il Nuovo Testamento ha centinaia di citazioni del Vecchio, ma non vi è una sola citazione tratta dai libri apocrifi, né un solo caso in cui uno di essi sia citato come scrittura ispirata, né come avente autorità, né in alcun'altra forma. 3. I primi cristiani, quelli che vengono chiamati i padri della Chiesa, non li usavano né li approvavano come parola di Dio. 4. La semplice lettura dei testi apocrifi raffrontata a quella dei libri del Nuovo Testamento lascia al lettore un'impressione che lo porta inevitabilmente a constatare la loro diversità e soprattutto la loro estraneità. Risulta così ancor più evidente che la loro esclusione non è frutto di un disegno concepito con inganno, ma risponde all'esigenza storica, logica ed interpretativa che ha guidato tutta l'impostazione della parola di Dio. Raffrontato con i libri del Nuovo Testamento, lasciando che ciascuno di essi lasci la sua impressione, porta il lettore a constatare che non è questione di una loro esclusione dal Nuovo Testamento ad opera di qualcuno, essi si sono esclusi da soli. In conclusione, possiamo dire che i libri apocrifi rimangono dei libri di un valore storico indiscusso, ma non possono essere accettati nel canone del VT, cioè 2. Come erano divisi i libri dell'Antico Testamento dagli ebrei? 3. In che periodo venne completato il canone dell'Antico Testamento? 4. Cosa significa la parola apocrifi? 5. A quali libri è riferita la parola apocrifi? 6. Perché in alcune Bibbie vi sono inseriti i libri apocrifi? 7. Spiega almeno 3 motivi perché i libri apocrifi non sono da ritenere parola di Dio. GRUPPIRELIGIOSIEBRAICI. ISAMARITANI. Quando nel 721 AC gli Assiri conquistarono le 10 tribù di Israele del nord della Palestina, deportarono un buon numero di vinti, poi sostituiti con stranieri provenienti dalla Mesopotamia e della Siria. Costoro, sposandosi con i giudei rimasti sul posto, diedero origine alla stirpe mista dei Samaritani. Nel 445 AC il capo dei giudei Neemia rifiutò la proposta samaritana di aiuto nella. La frattura tra giudei e samaritani si allargò sempre più quando questi ultimi edificarono un tempio indipendente sul monte Gerizim. I samaritani non differivano dai giudei solo perché adoravano sul monte Gerizim, ma anche perché accettavano come scrittura solo i primi cinque libri dell'Antico Testamento, cioè il Pentateuco. Il tempio samaritano fu distrutto nel 128 AC dal capo dei giudei Gircano. Ai tempi di Gesù vi era una profonda rivalità tra samaritani e giudei. Talvolta i samaritani tendevano agguati ai pellegrini giudei che attraversavano il loro territorio. Dal canto loro, per molti giudei era impensabile l'idea che potesse esistere un buon samaritano. Giovanni capitolo 4. Non a caso Giovanni riporta l'incontro di Gesù e la sua conversazione con una samaritana. Alla luce di quello che si è affermato sopra appaiono chiare alcune cose. 1. Lo stupore della samaritana, perché Gesù chiedeva il suo aiuto, versetto 9. 2. La fede della samaritana nel Pentateuco, versetto 12. 3. I due luoghi diversi di adorazione, versetto 20. IFARISEI. Il nome di farisei significa letteralmente i separati. Le loro origini risalgono al movimento dei Ti che, con i Maccabei, nel secondo secolo AC, si opposero ai tentativi di introdurre elementi greci nella cultura giudaica. In seguito, essi si opposero anche ai Maccabei quando questi cumularono cariche politiche e cariche religiose. I farisei sono menzionati per la prima volta come gruppo a sé al tempo del sommo sacerdote Gionata. Essi erano disposti a compromessi per garantirsi la sopravvivenza come gruppo distinto, ed erano in contrasto con i Sadducei a motivo della loro fede nella resurrezione. I farisei erano principalmente scribi che interpretavano le scritture secondo leggi orali che ritenevano antiche quanto quella scritta. La loro prima preoccupazione nell'interpretare la legge era di applicare la legge eterna ai variabili casi dei loro giorni, ricorrendo ad argomenti complessi. Ad esempio, un sarto non dovrebbe mettere l'ago nei suoi vestiti il venerdì nel timore che, portandolo con sé, avesse così a trasgredire il riposo del sabato. Paolo davanti al Sinedrio. Una dimostrazione del disaccordo dottrinale tra i farisei e i sadducei si trova in Atti 23, 1-11, in cui Paolo, conoscendo questo stato di cose, fece un'affermazione volutamente provocatoria, che lo salvò dall'impiccio. ISADDUCEI. I Sadducei erano così chiamati per la loro pretesa di discendere da Sadoc, il sommo sacerdote vissuto durante il regno di Davide e di Salomone. Essi appartenevano ad agiate famiglie aristocratiche che controllavano la carica del sommo sacerdote. Non credevano all'esistenza degli angeli e alla resurrezione. Erano dei conservatori rigoristi che osservavano la legge contenuta nei libri di Mosè e rigettavano le interpretazioni posteriori di questa stessa legge, cioè in altri termini la legge orale. I Sadducei andarono su tutte le furie quando Gesù annunciò la resurrezione. Fu un capo sacerdote sadduceo che condannò Gesù al termine dell'interrogatorio notturno e che lo inviò. I Sadducei furono anche i principali responsabili dei tentativi di far cessare la predicazione di Pietro e degli apostoli, quando proclamarono che Gesù era risorto dai morti. Matteo 22, 1-33. Fatte queste premesse, possiamo capire meglio il dibattito di Gesù con i Sadducei. Questi posero una domanda che di per sé sembrava innocua, ma Gesù, sapendo che essa era condizionata dalla loro resurrezione di dottrina, andò alla morte, concludendo che Dio è l'Iddio di persone che vivono tuttora. radice del problema dicendo: quanto poi alla GLISSENI. Gli Esseni non sono espressamente nominati dal Nuovo Testamento, ma ci sono noti dagli scritti di Giuseppe Flavio, Filone, Plinio il Vecchio, cioè storici non cristiani. Molti studiosi li identificano con la comunità monastica di Qumran che produsse i manoscritti del Mar Morto trovati nel 1947. Questa setta sarebbe iniziata nel secondo secolo AC e sarebbe scomparsa all'epoca della distruzione di Gerusalemme. Anche se degli Esseni sposati vivevano nei villaggi, l'ideale di vita di questa setta era pur sempre il celibato della comunità di Qumran. Coloro che, dopo l'iniziazione, entravano a far parte del gruppo, mettevano tutti i beni in comune, praticavano frequenti immersioni rituali e prendevano i pasti insieme. Giudicavano corrotti i sadducei ed erano convinti che i farisei non fossero ben saldi nell'osservanza dei precetti rituali. Vivevano in maniera semplice, nutrendosi e vestendosi senza alcuna ricercatezza. Si davano all'agricoltura e ad altri lavori utili. Provvedevano essi stessi ai loro bisogni e potevano quasi fare a meno del denaro. Quando erano in viaggio venivano albergati e nutriti gratuitamente da membri della comunità. Non possedevano schiavi. La loro morale era elevata. Marco 14, 12-16. Alcuni studiosi pensano che Gesù e i suoi discepoli andarono a mangiare la Pasqua in casa di un esseno. Partendo dal presupposto che erano le donne a portare le brocche d'acqua, e tenendo presente che gli esseni erano uomini dediti ai lavori, il fatto che un uomo portasse in Israele una brocca d'acqua era abbastanza indicativo. La grande sala ammobiliata è pronta. Era certamente un luogo di ritrovo degli esseni come comunità per mangiare. 1. Chi erano i samaritani? 2. Come si chiamava il monte sul quale adoravano i samaritani? 3. Chi erano i farisei? 4. Qual era l'errore più evidente dei farisei? 5. Chi erano i sadducei? 6. Quale dottrina importante negavano i sadducei? 7. Chi erano gli esseni? 8. Qual era il lato positivo degli esseni? S E T T E M B R E 1 999 Ellero